La zanzara con Alessio Maurizi. È giusto pagare le tasse? Sì, certo, è giusto, è un dovere, anche morale. No, perché se mi mandi a casa la cartella di Equitalia che per una multa di 50 euro mi pignora la casa, allora è giusto ribellarsi. Ma no, è giusto fare controlli contro l'evasione fiscale, per esempio come quelli a Cortina. Certo che è giusto, si pescano i grandi evasori. Eh no, se vai lì a fare uno show e un po' di propaganda sotto Natale e fai solo la figura di quello che si cerca un po' di pubblicità, allora non è una cosa seria. Cari ascoltatori, buonasera, ben ritrovati, 824-0024. In questi giorni di inizio anno gli italiani si scoprono di nuovo divisi e forse anche ancor più incattiviti da questo argomento del pagare le tasse. Il blitz di Cortina, i giornali sono ancora pieni di commenti, si fanno i conti di quello che è stato fatto, di quello che si poteva, si potrebbe fare, e le opinioni sono, manco a farla apposta, diverse e divise. Aspettiamo i vostri interventi, di questo e anche di altro si parlerà questa sera, come sempre in compagnia del sottoscritto, ma anche di Laura Marchesi, di Viola Bottoni in redazione e di Pietro Lacorte in regia. Sentiamo i titoli Sky TG24. Crisi, l'esortazione di Monti a Parigi, Europa debole, è ora di agire. Iniziato all'Eliseo il faccia a faccia tra il premier e Nicolas Sarkozy. E Christine Lagarde assicura, l'euro non sparirà nel 2012. Borsa e Piazza Affari chiude in calo, sprofonda il titolo Unicredit. Duplice omicidio di Roma, ritrovata la borsa rubata ai cinesi. Caos in Siria, bomba nel centro di Damasco, almeno 25 le vittime. Nigeria, cristiani ancora nel mirino, 23 morti negli attacchi di oggi. A Sky TG24 Francesca, la baby rock che ha sbancato X Factor. Il mio nome è Gianfranco Frugnaro, vendo oro ma risulto zampognaro, dei contanti che ho nascosto nei solai, che ne sai? Dei palazzi che ho comprato in quella via, quattro cinema di periferia, che ne sai delle vigne qua a Bahia, che ne sai? Conosco te, le attività mie. Hai tre Picasso, Modigliani e sei Carrà. Non ce li ho più. Guardami a me, il nome è mio. E Mimmo Scialla, fiamma gialla, sono io. Molto piacere. Questo è un esilarante Maurizio Crozza che interpreta il doppio ruolo di un evasore fiscale e che fa il gioielliere ma risulta zampognaro, come avete sentito, e della guardia del fisco, dell'agenzia delle entrate, che gli fa la guardia per l'appunto. Vedo i prelievi e i movimenti e sono guai, si se ne guai davanti a me. Comunque, cari ascoltatori, la soluzione per questa questione dell'evasione fiscale ce l'ha data ieri sera un ascoltatore alla fine della puntata alle 20.30, parlando di come fanno a Taiwan, una cosa rivoluzionaria che forse qualcuno conoscerà già, perché in Cina pare che la stiano sperimentando da un anno o due. Sentite. Prendiamo il modello taiwanese. Per invogliare, non penalizzare le persone a prendere gli scontrini, per invogliare a prendere gli scontrini fiscali, che si è inventato il modello taiwanese? Inserire i numeri del lotto sugli scontrini. Hanno fatto nel due inserire anni fa numeri? Più c'è i numeri del lotto sugli, sì, scontrini fiscali. In Italia esiste una legge, si chiama comma 6b, che uscirà fra poco, che imporrà un nuovo misuratore fiscale dove si potranno giocare il resto. Cioè io vado lì e dico: senta, mi dia un pacchetto di sigarette, vuole il resto? No, mi gioco i numeri del lotto. Invece di fare questo, imponiamo l'emissione di numeri del lotto su ogni scontrino fiscale. Cioè così uno è incentivato a volerlo, chiaro. Questo succede in Italia, continuando la mania in Italia, lo prenderebbero tutti, dalle gomme, le caramelle, al più grosso elettrodomestico. Ma questa sai che è una cosa geniale? Questo accade a Taiwan. A Taiwan, il modello di Taipei ultimamente hanno guadagnato 50 miliardi di dollari di evasione fiscale. Sei in paradiso, noi gli risposi con un sorriso, è molto meglio mia piccina, sono qui su, sono a Cortina. E comunque niente come un fatto concreto, come quello che è avvenuto a Cortina, può mettere le opinioni diverse le une di fronte agli altri. Cortina, la via del centro, i negozi di lusso, gli alberghi, i VIP, le gioiellerie, i ristoranti, insomma la gente discute di questo. Sentiamo allora qualche opinione di nuovo, anche se l'avete già sentito sicuramente, il sindaco di Cortina, che tra l'altro è un ragazzo, credo che sia abbastanza giovane, che continua ossessivamente a dire noi non siamo la città, la patria degli evasori. Chiediamo all'Agenzia delle Entrate un'operazione di trasparenza e di verità per spiegare a tutta Italia qual è la vera situazione, perché Cortina non è il patria di evasori. Noi crediamo che sia inaccettabile l'equazione per cui ospite di Cortina significa evasore. Pensate che il 30 dicembre, proprio qui nella nostra località, avevamo ospiti il ministro della giustizia Severino, personaggi del calibro di Luca di Montezemolo, addirittura il direttore generale delle entrate Attilio Befera era ospite di Cortina. Befera, l'uomo che vuol far pagare le tasse a tutti, quelli che non le pagano giustamente, però l'uomo anche che è responsabile delle cartelle contestate di Equitalia e su cui sono state cambiate un po' in corso d'opera anche col decreto Salva Italia di Monti, perché in effetti, anche se c'è molta ipocrisia su questo da parte della classe politica, perché tutti vogliono incassare i soldi che Equitalia porta nelle casse dello Stato, i politici dico, però insomma si comincia a squarciare il velo su questa questione di Equitalia, perché faremo anche un'intervista più avanti, ci sono casi clamorosi di gente che per una multa da 50 euro si è vista pignorare la casa. Befera, dicevamo, sentiamo ieri sera a Piazza Pulita con Formigli. Abbiamo fatto andare bene gli affari a Cortina in quel giorno, cioè? I ristoranti hanno avuto un incremento dei loro ricavi del 300% rispetto allo stesso giorno dell'anno precedente. Mentre controllavate voi? Sì, per esempio chi vende beni lusso ha avuto un incremento del 400% rispetto all'anno precedente. Quindi comunque non abbiamo danneggiato il turismo, l'abbiamo sicuramente favorito gli esercizi commerciali. E come lo legge lei questo dato eclatante? Che siamo stati bravi a portare dei clienti che prima forse entravano lo stesso ma non avevano la ricevuta fiscale. Ma noi siamo un popolo di evasori nati, secondo lei? Io dico che ce l'abbiamo un pochino nel DNA. L'evasione è un furto? Io lo considero un furto nei confronti di tutti noi, perché ci scordiamo sempre che i quattrini che incassiamo vanno a pagare i servizi pubblici di cui tutti quanti usufruiamo, vanno a pagare gli ospedali, le scuole, le strade. E poi, sempre durante la trasmissione, il duello tra Ugo Sposetti del Partito Democratico e Giorgio Stracquadagno del PDL sulla questione appunto del pagare le tasse e del blitz di Cortina. Sentiamo, comincia Sposetti con una dichiarazione forte, dice questa realtà di Cortina ci ha fatto vedere che questi qua se ne sbattono dell'Italia che soffre e che lavora. Cortina ci ha fatto vedere un paese diverso da quello che lei aveva mandato in onda all'inizio. Finalmente abbiamo capito che c'è gente profondamente diversa da chi soffre, che se ne sbatte, chiedo scusa per il termine, di chi lavora, di chi soffre, di chi si alza la mattina presto, di chi deve pagare le bollette, di chi deve pagare il mutuo. Quella è un'Italia che a me non piace. E poi ci prova Giorgio Stracquadagno del PDL a dire, a raccontare una sua passata esperienza a bordo di un'auto di lusso. Sentiamo. Le racconto un episodio che mi riguarda. Ho un'auto del 99, ereditata da mio padre, delle stesse caratteristiche che ha descritto Don Pietro, sopra una certa potenza, un'auto sportiva, vistosa. All'uscita da un casello autostradale, mentre la guidavo, sono stato fermato da una pattuglia della Guardia di Finanza composta da tre perdonatemi, fatemi completare. Sposetti Scalpita, perché vuole rispondere. Ma questi sono episodi di vita vissuta. Ma questo signore straparla, non sa di che cosa sta parlando. Ma lo so perfettamente, Sposetti, non sa neanche raccontare le cose. Non sa che cos'è uno Stato democratico. Le imposte si pagano. Si pagano. Certo che si pagano. Ho detto che se quattro volte su dieci si chiedono ingiustamente. Al conto tuo, del mio bar, oggi ormai nero, vedo i prelievi e i movimenti e sono guai, si sei nei guai. Davanti a me c'è uno scontrino, è solo ed è vicino. Sentite ancora un momento di questo acceso dibattito tra Ugo Sposetti e Giorgio Straquadagno a Piazza Pulita da Formigli, perché rappresenta proprio la divisione tra le due tra i due pensieri. Dice Sposetti: le tasse bisogna pagarle, punto e basta. No, dice Straquadagno, se poi i ricorsi, il 40% sono vinti dai contribuenti, allora c'è qualcosa che non va, lasciami in pace, dice Sposetti. Sentiamo. La prima regola è che intanto le tasse si pagano. In questo caso io ascolto delle cose, il pizzo di sta, ma che cos'è? Una quando vergogna. Sono dovute si paga. Lasciami in pace. Quando sono dovute, Sposetti? Lasciami in pace. Quando sono dovute si paga. Lasciami in pace. Quando si contesta un tasse ingiuste non sarebbe non questo si, non, signore lo Stato non può agire. Guadagno. Questo signore non sa di cosa parla. Mi rispondimi con i dati. Io dico al punto 4 su 10 ricorsi danno torto allo Stato, vero o no? Ma stai zitto, posso? Stai zitto, dai, non sai di che cosa vorrei parlare. No. Posso? No, ma non ti dovresti vergognare. Straquadagno, abbiamo fatto la pace all'inizio della trasmissione, però. E il signor Sposetti mi insulta dicendo lasciami stare. Ma non l'hai insultato. Rispondo coi numeri. Conosco te, se io risiedo in quel che non dai. In quale asilo grande esilarante Crozza con questo dialogo sulla canzone di Battisti, pensieri e parole, tra un evasore e l'agente del fisco. Sempre saccheggiando, e ringraziamo, Piazza Pulita di ieri sera sulla 7, Straquadagno che poi fa una duplice ammissione. Dopo aver attaccato sulla questione delle tasse, poi vedremo, litigherà anche con Tosi, così segnando la fine di questa alleanza politica tra il PDL e la Lega, Straquadagno poi fa una duplice ammissione. Dice, devo dire però che su questa questione delle tasse e di Equitalia noi abbiamo fallito nell'ultimo anno di governo. Dirà, tant'è vero che ci meriteremo uno stipendio pari a zero per quello che è stato l'ultimo anno del governo Berlusconi. Io affermo che noi abbiamo fallito sul piano fiscale e affermo che abbiamo concesso al fisco poteri inusitati e che se l'avessero concessi questi poteri una coalizione di centrosinistra noi avremmo portato 2 milioni di persone in piazza. E quindi questo è il più grave fallimento che io devo registrare da parte della mia coalizione, assumendomi anche l'onere di avere votato quei decreti che hanno creato quello che ho chiamato pizzo di Stato. Non possiamo fare un patteggiamento. La grande questione non sta nella quantità di denaro, ma sta nella qualità del nostro lavoro. Io ripeto da alcuni mesi che se dovessimo basarlo sull'ultimo anno, il nostro valore di mercato sarebbe zero. No, anche 1.000 euro sarebbero troppi, perché abbiamo lavorato male, male e in modo inefficiente. C'è dentro un caseggiato. Che cosa vuoi, un piano, un garage? Ora ti porto a San Vittore. Ora ti porto a San Vittore. Poi sul finale c'è naturalmente il tentativo di corruzione che però finirà male. Buonasera Elena Polidori, giornalista del Quotidiano Nazionale, autrice del libro Resistere a Equitalia. Buonasera a tutti. Benvenuta. Allora, su questa questione, lei ha scritto questo libro quando è uscito? Un mese fa circa? Un mese fa, il 24 di novembre, quindi più di un mese fa. C'è stata, a dire la verità, molta ipocrisia, ho detto anche all'inizio, da parte della politica su questa questione, perché si è lasciato un po' alla Lega, più recentemente anche a Grillo, di prendere le distanze da alcuni comportamenti di Equitalia, perché poi fa comodo tutto incassare a tutti, soprattutto ai ministri dell'economia che si sono succeduti, incassare per esempio 8 miliardi nel 2010 da parte di Equitalia, che fanno comodo alle casse sempre più svuotate del bilancio dello Stato. Lei da quanto tempo si è occupata di questa questione di Equitalia e arrivando a scrivere un manuale per resistere a quelli che sono dei veri e propri abusi? Allora, io non è che sono anni che mi occupo di Equitalia, semplicemente io sono una vittima di Equitalia e ho scritto questo libro non per vendetta nei confronti di Equitalia, ma per fare in modo che i cittadini un po' meno avvezzi di me, con meno uso di mondo, quindi con meno conoscenze, eccetera, dargli uno strumento per venire a capo di una situazione che oggettivamente sta diventando ora di allarme sociale, non che prima non lo fosse, ma insomma adesso sta assumendo dei connotati assolutamente, appunto, di emergenza. Perché lei un giorno ha ricevuto una cartella esattoriale per una multa. Che giorno era? No, ma magari fosse stato così. Io ho ricevuto una telefonata da un'amica che lavora nella una banca dove ho il conto corrente, che mi ha detto: guarda Elena, sei appena stata iscritta alla centrale rischi dei cattivi pagatori perché ti hanno messo anche un'ipoteca sulla casa. Ma ci picchia. Ed è un risveglio abbastanza angosciante, quello di trovarsi improvvisamente catapultati in un incubo senza sapere neanche il perché. Io ne sono venuta a capo perché io, attraverso vicissitudini piuttosto, adesso sarebbe lungo anche raccontare, comunque sono riuscita a capire da che cosa derivava, e tutto questo derivava da una serie di multe non pagate che erano secondo me andate in prescrizione, invece secondo il Comune di Roma tutt'altro, quindi aveva passato la pratica appunto a Equitalia, che le aveva iscritte al ruolo e ovviamente maggiorate con una serie di tassi di interesse varie, dimora eccetera eccetera, per cui erano lievitate da, faccio per dire, 500 erano diventati 1500, e che però ecco bastato quel 1500 euro per farmi iscrivere un'ipoteca sulla casa. Cosa che adesso credo che non sia più così, no? Perché c'è stato sia con un intervento di Tremonti, sia nel Salva Italia di Monti sono stati un po' cambiati alcuni parametri. Credo che sì. Però c'è voluto. C'è voluto quello che c'è voluto, e poi ovviamente il comportamento di Equitalia non è che nel frattempo è cambiato di molto, comunque stiamo parlando di una sentenza della Cassazione che è del luglio scorso, sì, e di un decreto di Tremonti che è dell'11 ottobre scorso. Prima Equitalia faceva un po' come gli pareva, uh-huh, anche perché lo dicevano loro stessi, l'hanno detto più volte, non essendoci stata prima alcun tetto previsto dalla legge per mettere ipoteche sulla casa, ebbene noi ci siamo comportati come meglio credevamo, insomma. Ci sono casi incredibili, appartamenti messi all'asta, la gente che non lo sapeva, addirittura un caso in Sardegna di un debito di 50 centesimi che è diventato relativamente non preoccupante, però di 60 euro, cioè con aumenti del 100, 200, addirittura del 1000%. Tutto questo accade secondo lei perché? Per mera, per errori, per complicazioni, perché no, la legge è complicata, oppure perché c'è dietro una volontà? C'è una precisa volontà politica dietro tutto questo. Allora, la volontà politica sta in questo. Ad Equitalia, che è il braccio armato del fisco, perché bisogna anche connotare chi è Equitalia, ad Equitalia sono stati dati dei poteri straordinari che nessun altro ente fiscale ha nel mondo. Questo è stato fatto perché? Perché la lotta all'evasione è diventata, sia nel precedente governo sia in questo governo, attuale governo Monti, è diventata un po' la stella polare, cioè bisogna fare questa lotta all'evasione perché l'Italia è il paese dove si evade di più. Ebbene, la strategia di Equitalia, a differenza di quella che dovrebbe essere invece una strategia oculata di reale lotta alla grande evasione, è basata su questo discorso. Siccome è più facile diciamo perseguire tanti piccoli creditori dello Stato piuttosto che perseguirne 3-4 di quelli grossi, che sono difficili anche da prendere, certo, perché quelli piccoli, esatto, quelli piccoli sono tutti conosciuti al fisco, perché si tratta di situazioni in cui gente che paga già le tasse, no, e che quindi se sgarra, se esce dal binario, è subito riconoscibile. Invece il problema sarebbe anche perché tra l'altro Equitalia si occupa anche di cercare di colpire i grandi evasori. Io ho qualche cifra e ho letto da qualche parte che l'anno scorso persone che devono allo Stato più di 500.000 euro, quindi sarebbero i grandi evasori, non lei che ha la multa da 500 euro, erano oltre 1.000, facendo le somme, insomma, quello che è stato raccolto, cioè circa 1 miliardo di euro, è molto meno di quello che era potenzialmente doveva essere ottenuto. Ma c'è anche di peggio, cioè nel senso che sulla grande torta del recupero dell'evasione, la lotta, cioè quello che viene recuperato dalla grande evasione fiscale, stiamo parlando di quelli che portano i capitali all'estero, di quelli che appunto sono del tutto e che eludono totalmente le dichiarazioni dei redditi, quindi insomma comunque ci sono e ci sono anche ancora molti in Italia. Ebbene, nella grande torta, dicevo, rappresentano solo il 20% di quella che poi è la riscossione generale che il governo chiede a Equitalia, che Equitalia porta a casa. Ricordiamoci che l'anno scorso Tremonti aveva chiesto a Equitalia un gettito di rientro dell'evasione di 13 milioni di euro. 13 milioni di euro che solo per il 25% sono stati recuperati dalla grande lotta all'evasione fiscale, cioè sono stati recuperati andando a trovare quelli che sono, diciamo, i veri evasori, non gli evasori inutili come possiamo essere io e lei, nel senso noi possiamo non aver pagato il canone della RAI, possiamo non aver pagato una rata dell'immondizia, possiamo non aver pagato una multa, possiamo avere un commercialista distratto che ha fatto male dei conti, ma la maggior parte dei cittadini italiani, essendo casomai lavoratori dipendenti, le tasse le pagano alla fonte. Quindi non c'è una vera e propria evasione, diciamo, dal punto di vista del e tante volte non c'è nemmeno intenzione. Elena Polidori, autrice di Resistere a Equitalia, resti in linea con noi, dobbiamo fare la borsa. Poi le voglio chiedere anche un commento, suo punto di vista, su quello che è avvenuto a Cortina, argomento che si intreccia a quello di cui stiamo parlando adesso, e poi se nel suo libro c'è anche qualche consiglio da dare ai contribuenti per resistere ad Equitalia. Il mio nome è Gianfranco Frugnaro, vendo oro ma risulto zampognaro dei contanti che ho nascosto nei solai, che ne sai, dei palazzi che ho comprato in quella via, 4 cinema di periferia, che ne sai delle vigne qua a Bahia, che ne sai. Conosco te, le attività, hai 3 Picasso, Modigliani e 6 Carrà. Un evasore fiscale, un gioielliere evasore e un agente del fisco, un militare della Guardia di Finanza, interpretati da Maurizio Crozza qualche sera fa a Italia Land, per parlare di questo argomento in compagnia di Elena Polidori, giornalista, autrice di Resistere a Equitalia. Le voglio chiedere un commento su quello che è avvenuto a Cortina, questi controlli tanto discussi sui giornali, perché io per esempio, parlandone qui con esponenti per esempio della Lega, che hanno manifestato molte criticità sul comportamento di Equitalia, molte critiche condivisibili, e poi anche su questo blitz a Cortina. Io ho detto e dico, ma se vogliamo evitare che Equitalia sia costretta a fare, o sia costretta o faccia, porti avanti questa linea del perseguire il piccolo, neanche evasore, ma insomma il piccolo contribuente fuori regola, forse andando a pescare i grandi evasori in qualche modo si può ovviare a questa cosa qua, e allora ben venga Cortina. Lei che ne pensa? Allora, prima di tutto Cortina è stata un po' una diciamo un'operazione spot, ok? Abbiamo voluto far vedere ai cittadini italiani che non colpiamo solo loro, ma andiamo nel cuore del problema, che è appunto la ricchezza ostentata come quella dei tanti avventori delle feste natalizie di Cortina d'Ampezzo, così come ce ne saranno altre di occasioni spot per poter far credere agli italiani che non sono solo loro i tartassati di Equitalia, ma ce ne sono tantissimi altri. No, a me non è piaciuta la questione Cortina. Perché secondo me è solo propaganda, cioè non è solo fumo e niente arrosto. Esatto, il problema è che bisognerebbe avere una cortina tutti i giorni. Allora, il problema che è scritto anche nel libro non riguarda le questioni spot, riguarda una politica generale di Equitalia, cioè mi spiego meglio. Quello che mi risulta, i controlli vengono fatti nelle località turistiche al di là di questo preciso momento in cui si è parlato molto di Cortina, sì, però sì, certo. Se andiamo a guardare sui giornali, controlli a Portofino, in Costa Smeralda o in altre località di turismo invernale, sono stati fatti anche in passato. Poi, Però poi quando si tratta di fare un accordo con la Svizzera sul similare a quello che è stato fatto dalla Germania e dall'Inghilterra per tassare i capitali che stanno all'estero, il governo ritira la mano e quindi anche Equitalia non può andare oltre, ebbene lì si capisce che poi è veramente la politica della lotta all'evasione è variegata a seconda di come la si pensa in quel momento. Vorrei chiarire questo concetto. Fare una lotta vera e reale all'evasione significa andare a stanare sì l'elusore totale, ma anche andare a fare dei controlli a tappeto su quelle che sono delle aziende che casomai ti stanno sotto il naso e non, insomma, senza andare a Cortina o senza andare ad Amalfi, senza andare a Porto Cervo in Sardegna. Tante volte ci sono delle situazioni evidenti, faccio l'esempio di quest'estate dove per fortuna la Guardia di Finanza è arrivata un po' su tutto il litorale romano a castigare, tra molte virgolette, tutti quegli imprenditori che non pagavano le tasse oppure eludono totalmente il fisco perché sostengono di guadagnare 30.000 euro l'anno e poi in realtà hanno un bagno a Fregene, faccio per dire. Però queste sono cose che vanno fatte con una politica, una strategia di lotta all'evasione molto precisa e molto definita. Staremo a vedere perché bisogna ricordare anche che c'è anche un indirizzo politico nei controlli fiscali, perché l'Agenzia delle Entrate fa capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, credo che adesso fa capo direttamente a Mario Monti, quindi non è da escludere che Cortina, ma anche quello che vedremo in futuro, sia in qualche modo anche un'emanazione di questo discorso politico. Però le voglio chiedere ancora, invece, tornando a noi, a Equitalia, visto che il suo libro di questo si occupa, se lei appunto ha messo a punto dei consigli per resistere a Equitalia e quali sono, se ci vuole raccontare qualcosa. Allora, non l'ho fatto io ovviamente perché insomma, io potevo parlare della mia esperienza personale, mi sono rivolta alla Diconsum, che è un'associazione di consumatori molto conosciuta e molto solida, e ho chiesto a uno dei loro avvocati, oltre al pool di persone che segue solo ed esclusivamente le pratiche di Equitalia, di scrivere insieme a me ovviamente a domanda risposta una sorta di decalogo di come appunto il cittadino comune, quello che si vede arrivare la mattina una cartella di Equitalia o peggio si trova come mi sono trovata io improvvisamente con un'ipoteca sulla casa senza sapere neanche perché, come si può non solo resistere ma anche in qualche maniera controbattere ad Equitalia, perché non dimentichiamoci che poi Equitalia qualche volta sbaglia. Nel mio caso lo ha fatto, ma lo fa con un margine di errore che è ancora estremamente alto. E quindi quando arriva una cartella non è detto che poi quello che dice Equitalia sia del tutto vero. Ci vuole l'avvocato, però cosa bisogna fare? Ci vuole l'associazione consumatori? Prima di tutto cercare di capire, venirne a capo, andare la prima possibile proprio in una delle sedi di Equitalia, cercare di capire da che cosa viene fuori quel debito, capire quanto è la mora, capire se quella cosa è stata prescritta, se non è stata pagata precedentemente, poi uno si è dimenticato e ha messo nel cassetto una ricevuta, quindi prima di tutto venire a capo del perché c'è quella cartella, dopodiché se si presume di avere ragione a quel punto bisogna contestarlo. Il problema è che con il nuovo decreto fatto da Tremonti nell'ottobre scorso, contestare, quindi fare ricorso, significa pagare comunque un terzo di quello che Equitalia richiede. E questa è una norma che oggettivamente credo sia già stata oggetto di ricorso verso la Corte di Costituzionale, perché è abbastanza problematico, diciamo, pensare che questa sia una cosa che va, cioè, diciamo, dal punto di vista legislativo, che è giusta. Ma detto questo, comunque, se si pensa di essere nel giusto, la cosa migliore è fare ricorso nei tempi e nei modi giusti, per cui nel mio libro ci sono tutta una serie, appunto, di indicazioni su come evitare, per esempio, di non avere i tempi giusti di prescrizione. E ci sono tutta una serie di diciamo indicazioni di, per esempio, i tempi giusti della prescrizione nel caso delle multe. È un tema molto dibattuto, ce l'ha una cifra da darci così su due piedi? Sì, le multe sono sempre lì, le multe scadono dopo entrano in prescrizione dopo 5 anni. Ascoltatori, mi raccomando, segnatevela questo numero, perché almeno che, attenzione, battaglione, come si suol dire, almeno che non ci sia stata un'interruzione da parte di Equitalia o del comune da cui è stata emanata la multa, che ha in qualche maniera avvertito il cittadino che si sta facendo un verbale o comunque si sta proseguendo. Allora lì i tempi si prorogano praticamente. Esatto, e lì i tempi si raddoppiano, perché a 4 anni, 11 mesi e un giorno arriva una sollecitazione del comune a dire: guardi signore, che abbiamo una cosa che la riguarda e che quindi dovrebbe venire da noi, e quella è un'interruzione di prescrizione, e purtroppo poi dopo quella multa rimane lì appesa. Ma noi stiamo parlando di Equitalia, comunque, di cose che sono già andate a ruolo. A ruolo significa che l'ente, il comune o piuttosto che altri hanno dato mandato a Equitalia di riscuotere. Quindi Equitalia non vede e non sente nulla, il comune di Roma o il comune di Milano dice di andare a riscuotere un debito pregresso a Elena Polidori piuttosto che ad altri cittadini italiani, e Equitalia viene a riscuotere con tutti i mezzi che ha a disposizione, fino a questo momento leciti e ancora più leciti, visto che appunto il governo gli ha dato in mano delle armi inusitate, e quindi praticamente hanno, come dire, carta bianca per riscuotere. Però è vero che col decreto Salva Italia è stato alzato la soglia della contestazione, quindi non più pochi spiccioli, ma credo diverse migliaia di euro, forse 20.000 euro, prima che si parli di un pignoramento sia sull'ipoteca, sulla casa, che sulle ganasce fiscali. Esatto, non è stato fatto con il decreto Salva Italia, è stato fatto precedentemente da Monti su sollecitazione di Umberto Bossi. Da Tremonti, perdonate, su sollecitazione di Umberto Bossi, perché di mezzo c'erano gli allevatori, le quote latte e gli allevatori della Padania. Sì. E quindi, siccome c'era una mezza rivolta tra gli elettori del Carroccio, Tremonti si è messo una mano sul cuore e ha elevato questa è la possibilità da parte di Equitalia di mettere un'ipoteca ai 20.000 euro di debito. Facciamo attenzione, a 20.000 euro di debito ci si arriva in un soffio. Quando si ha una piccola azienda e casomai non si è potuto pagare o non si sono potute pagare le tasse perché si era in perdita, ci vuole pochissimo arrivare a 20.000 euro, tant'è che in Sardegna stiamo assistendo proprio in questi giorni, in queste ore, a delle vere e proprie, possiamo chiamarle manifestazioni popolari per non dire sommosse, perché delle aziende, delle piccole aziende agricole sono state poste sotto sequestro e in molti casi addirittura messe all'incanto, cioè all'asta, stiamo parlando addirittura di greggi di pecore messe all'incanto, perché alcuni pastori sardi non erano stati in grado nei 2 anni precedenti di pagare le tasse e perché la loro azienda era ovviamente in perdita. E quindi arrivare ai 20.000 euro con tutte le more, con i tassi di interesse che sono sfiorano talvolta l'usura, perché stiamo parlando del 9,5%, ci si mette poco. Quindi non è che poi Tremonti abbia fatto questo grande regalo. Certo è meglio di prima, perché almeno esiste una cifra. Sì, l'altra prima cosa, mi ero confuso, la questione che ha fatto, credo, il governo Monti, gliela chiedo, è quella relativamente al fatto che i beni sequestrati non vanno direttamente all'asta, ma possono essere riacquistati da chi aveva subito il sequestro, che diciamo è una piccola facilitazione. Questo è vero, però io mi chiedo, se una persona non è stata in grado di pagare le tasse perché non aveva soldi, perché qui stiamo parlando anche di gente che non è in grado di chiudere un debito perché non ha materialmente dove andarli a prendere i soldi, visto che si tratta appunto spesso di piccoli imprenditori, sì, che hanno visto l'azienda. Ecco, come saranno in grado questi qua, di però riacquistare mi sento di dire, qua però io personalmente mi sento di dire che siamo già in un'altra soglia rispetto all'errore o alla cifra che monta a tassi usurai e invece l'impossibilità di pagare per una situazione economica. Comunque grazie Elena Polidori, non so se vuol commentare anche quest'ultima cosa, però poi abbiamo il traffico, 30 secondi. Ma come posso commentarla? Io penso che comunque si debba cambiare politica, cioè la politica di Equitalia debba necessariamente cambiare, perché così non si va avanti. Per esempio questa levata di scudi della Lega e di Grillo, che effetto le ha fatto? Una presa di coscienza un po' tardiva di un problema che esiste da tantissimo tempo. Il problema è che la politica fino ad oggi ha utilizzato anche Equitalia per fare cassa, politica intendo ovviamente chi governava, seminando il malessere, il malcontento tra i cittadini, che non è vero che tutti gli italiani sono in fondo degli evasori, non è assolutamente vero, è vero che c'è una grandissima evasione fiscale, ma siamo proprio sicuri, ed è una domanda che pongo a tutti quanti, che i metodi di Equitalia siano quelli giusti? Secondo me no. Grazie allora Elena Polidori, Resistere a Equitalia, buona serata. 800 24 00 24 tra un attimo dopo il traffico. Di nuovo in diretta tra pochissimo con i vostri interventi, prima titoli del TG2. Parigi vede Sarkozy, lavoriamo con Francia e Germania, Europa debole, agisca rapidamente, dall'Italia sforzo senza pari, annuncia altre misure nei prossimi 2 mesi. Polemiche sulla sicurezza a Roma dopo l'omicidio di padre e figlia cinesi uccisi con un colpo di pistola, nessuna pista esclusa, trovata la borsa con i soldi sottratta alla moglie dell'uomo. Confessa il 18enne fermato per l'omicidio della sua fidanzata in provincia di Bari, più volte l'aveva minacciata di morte su Facebook e anche con SMS. Freddo e mare in burrasca, 4 feriti su un traghetto, vento con raffiche fino a 260 km orari sopra Cervinia, piste da sci chiuse in Piemonte, forte rischio valanghe al nord, neve anche in Sila. Conosco te, le attività, hai 3 Picasso, Modigliani e 6 Carrà. Non ce li ho più. Guardami a me, il nome è mio, e Mimmo Scialla, fiamma gialla, sono io. Molto piacere. E va bene, allora come detto sentiamo i vostri interventi di questa sera, cominciamo con Antonio da Roma, buonasera. Buonasera, senta, io vorrei semplicemente far notare che da quando è arrivato questo nuovo politico, tecnico, non nominato dagli elettori, praticamente tutte le trasmissioni sono cambiate, sia televisive che radio, e anche la vostra diciamo comunque affrontava già molte problematiche, però diciamo che negli ultimi periodi tutte queste problematiche degli stipendi, delle tasse, sono diventate proprio al 100% comunicazione abituale di tutte le reti, di tutte le trasmissioni. Quindi io vorrei sapere come fanno questi politici che adesso hanno difficoltà a presentarsi al ristorante perché devono spacciarsi per avvocati oppure per commercialisti secondo la loro professione reale, a ripresentarsi e a farsi eleggere al popolo. E poi Cortina, ma basta andare nei porti turistici, nei porti, per vedere tutte le barche che sono parcheggiate, penso che sia una cosa ancora più semplice. Se si fa una visione dall'alto via internet è una cosa incredibile quante barche noi abbiamo nei porti. Quindi, cioè, se si vuole veramente affondare la lama, ma si può farlo velocemente in tutta la situazione, in molti ambiti. Quindi, secondo me, non ancora c'è molta volontà reale di andare a fondo, di andare a veramente a capire dove stanno i problemi. E forse si fanno gli spot come questo di Cortina. Va bene, grazie Antonio. Sì, è quello che sosteneva un po' anche Elena Polidori sul fatto che, per esempio, citando il mancato accordo con la Svizzera, eccetera, eccetera. Può darsi, questo dico io, che quello che è avvenuto a Cortina sia l'inizio di altri blitz o di altri controlli, l'inizio, insomma. Ricordiamoci che in realtà vengono fatti più o meno regolarmente sotto le feste, nei luoghi di vacanza, eccetera. Però magari potrebbe esserci un'accelerazione, magari per volontà di Monti, che oltre ad essere Presidente del Consiglio, ricordiamo, è anche titolare dell'economia e delle finanze. Filippo da Milano, buonasera. Buonasera. Senta, io sono uno del settore, nel senso che mi occupo in un ufficio verbali di un comune dell'Interland di Milano. Adesso qualcuno dovrebbe però, a me viene in mente una cosa, qualcuno dovrebbe dire che cosa bisogna fare per riscuotere le multe non pagate. Cioè, come si fa? Perché tutti dicono Equitalia dovrebbe fare diverso. Sì, dite come però. Perché tutti dicono diverso, fare qualcos'altro, eccetera. Ma per esempio non mettere tassi dell'11% quando tasso dell'usura è 14%, per esempio, non lo so. Il problema è uno, articolo 26 o 27, adesso non ricordo più preciso, della legge 689, che per ogni sanzione non pagata da quando è diventata titolo esecutivo impone una maggiorazione del 10%. Certo, no, ma infatti io lo dico a lei, ma è chiaro che Equitalia applica le leggi che ci sono, quindi vanno cambiate le leggi. Equitalia l'ha creata Tremonti e Berlusconi, è andata avanti anche nel periodo di governo Prodi. E applica le leggi, questo che le fa il Parlamento. Berlusconi, da ben prima di Che tra l'altro le fa il Parlamento, che quello sì che è votato dagli elettori, quindi Monti su questo non c'entra proprio nulla. No, ma non è un problema, non è un problema di Monti o non Monti, è un problema di norme che si applicano da almeno 15 anni, non oggi. Se uno dice, se io non ti pago una multa, bene, tu però non mi devi sottoporre a fermo fiscale il veicolo, non puoi rivalerti e pignorare lo stipendio, non puoi. Ma lei mi scusi, quando dice che il lavoro che fa, immagino che venga così additato al pubblico ludibrio. Non la invidieranno per il lavoro che fa, perché si becca un sacco di accidenti. Guardi, noi poi come comune, assolutamente. Cioè, il problema è che se uno, quando riceve una cartella esattoriale, prima che si passi agli atti esecutivi, che significa il fermo del veicolo o il pignoramento dello stipendio o addirittura l'ipoteca sulla casa, passano dei tempi. Adesso con le ultime cose, con le ultime riforme, una persona deve ricevere prima la cartella esattoriale, poi dopo 6 mesi riceve un preavviso di fermo fiscale del veicolo, poi ne deve ricevere un altro e poi uno procede, perché se no allora chi paga è un cretino, insomma, non so come dire, tanto vale che uno quando prende una multa non la paghi. No, ma questo è evidente, ci sono delle regole, se c'è un credito che deve essere eseguito e chi riceve la cartella regolarmente, una, due volte, tre volte non paga, poi è chiaro che scatta un meccanismo di perseguimento di questo credito, e questo è inevitabile. Però sa com'è, sulle modalità si può discutere quanto si vuole, perché possono cambiare molto. La legge dice il tasso è il 10%, il tempo che trascorre a volte è molto lungo e quindi si passa a crediti che triplicano, quadruplicano, e allora forse diventa eccessivo. Ma va bene, insomma, grazie per questa testimonianza da Milano. Dove andiamo? Aldo da Brescia, buonasera, benvenuto. Buonasera, dottore, buonasera. Io volevo parlare, sono un po' fuori tema, ma volevo parlare di una mia esperienza da immigrato, al contrario, all'estero. Cioè, io da italiano a un certo punto ho preso il permesso di soggiorno per andare in Turchia. Ah, questa è bella. Beh, bella, insomma, è una cosa che... Vabbè, per lavoro sarà stato, no? Sì, ovviamente, sì. Per lavoro. È bella l'idea del permesso di soggiorno. Beh, certo, chiunque vada fuori dall'Unione Europea per un periodo lungo ha bisogno di questo logicamente, documento. Sì. Logicamente chiunque si vada a trovare in una condizione come la mia, dove alla fine io ho chiuso un contratto con un'azienda ad Istanbul, mi sono recato nel posto di polizia più vicino, ho detto: signore, io mi fermerò qua per un po' di tempo, non so quanto, cosa devo fare. Ma perché lei ci racconta questa testimonianza, questa esperienza? Perché adesso vi faccio un parallelo senza voler fare dei confronti necessariamente, ma vi racconto che cosa ho vissuto da una parte e dall'altra. Allora, io vado nel posto di polizia, questi mi dicono: guarda, devi seguire questo percorso, vai al tuo consolato in Italia, al nostro consolato in Italia, scusi, ti fai dare la procedura e segui l'iter, dopodiché ti ripresenti qua. Io sono andato al consolato turco in Italia, che è a Milano, mi hanno dato un elenco di documenti che io ho esibito a questi, passando per la prefettura della mia città. E mi sono trovato, questa è la prima esperienza, nell'ufficio stranieri, perché è lo stesso ufficio che segue, che fa la procedura, di questa prefettura, dove ero in uno stanzone con 8 finestre completamente chiuse. Se si ricorda, l'estate del 2005. Sì, però andiamo al senso di questo argomento, che non può essere la sua esperienza, ma un pensiero un pochino più generale, o no, Aldo? La mia, io non so generalizzare su questa cosa. Ad Istanbul io mi sono... Ma io non ho capito perché ci sta chiamando, cosa ci vuole dire? No, quello che vi voglio dire è semplicemente che si è creata una situazione in Italia legata proprio all'immigrazione, dove anche la gestione di un flusso di stranieri che non è enorme rispetto a quella che è una città come Istanbul, faccio l'esempio di quello che conosco io, Istanbul è una città che è sulla carta 14 milioni di persone, non esiste una città del genere in Italia, il sindaco di Istanbul sostiene che il prossimo censimento parlerà di più di 22 milioni di persone. Va bene, grazie Aldo, non so se è riuscito a dire quello che voleva, adesso però dobbiamo fare il giornale radio, torniamo tra pochissimo. 800 24 00 24. La zanzara. 800 24 00 24 per intervenire in diretta anche questa sera sino alle 20:30, cari ascoltatori. Benissimo, siamo di nuovo insieme. Titoli di Sky TG24. Monti a Parigi, dall'Italia sforzo senza pari, ogni stato faccia quel che deve. Il premier riceverà Merkel e Sarkozy il 20 gennaio, lavoriamo mano nella mano. Il presidente francese assicura: crediamo nell'euro e Monti ispira fiducia. Lo spread chiude poco sotto i 530 punti, i bancari fanno soffrire le borse. Cala la disoccupazione negli Stati Uniti, Obama cauto, resta molto da fare. Trovata la borsa con la re furtiva della tragica rapina di Roma, banditi ancora in fuga. 26 morti in un attentato a Damasco, il regime promette il pugno di ferro. Vento forte nel giorno dell'Epifania, feriti lievi, danni e collegamenti in tilt al sud. Partenza in affanno per i saldi, primo giorno con tanta gente e pochi acquisti. X Factor trionfa negli ascolti, Francesca corona un sogno e ringrazia il fidanzato. Così Sky TG24, dunque adesso sentiamo il TG3. Monti a Parigi, l'Italia ha fatto uno sforzo straordinario, ora tocca all'Europa rassicurare i mercati, Sarkozy con Roma identità di vedute. Tensioni sui titoli di Stato, spread a 528 punti, borse ancora giù e banche sotto tiro, sacrifici in fumo, sale il rischio Ungheria. Il ministro Passera, Europa deludente, più poteri alla banca centrale, il PDL, ogni sforzo è vano se l'Unione non cambia linea. L'Agenzia delle Entrate annuncia altri controlli antievasione stile Cortina, critiche da Lega e PDL, messi in pericolo turismi e affari. Messaggi e fiori nel luogo dove sono stati uccisi la bimba cinese e il padre, trovati 10.000 euro della rapina, il sindaco di Roma Alemanno al TG3. Esplosione a Damasco, decine di vittime per le autorità siriane, un attacco kamikaze, attivisti accusano il regime di aver orchestrato la strage. La stagione dei saldi è cominciata con un flop, vendite giù del 25%, corre solo agli outlet dove si risparmia di più. Conosco te, le attività, Hai tre Picasso, Modigliani e sei Carrà. Non ce li ho più. Guardami a me, il nome è mio, e Mimmo Scialla, fiamma gialla, sono io. Molto piacere. Che ne sai tu di dove tengo il grano? Maurizio Crozza, che interpreta il doppio ruolo di un gioielliere evasore che fa lo zampogniere, risulta come zampogniere, ed un agente del fisco che gli dà la caccia. Avete mai ricevuto in regalo un'automobile da 35.000 euro? Bene, non siete, evidentemente non frequentate il giro di Massimo Boldi, perché è quello che dice lui oggi sul Corriere. L'attore Boldi, intervistato a proposito del blitz di Cortina, dice: ma non vuol dire nulla, Mercedes da 40.000 euro, basta comprarle a rate oppure usate. E poi dice che poi scusi, dice Boldi, magari è un regalo di un fidanzato, di un parente più danaroso, mica è detto. Accidenti, bisogna avere gli amici di Boldi, amici generosi. Ma sul conto è un... Avete sentito nei titoli anche del TG3 la vicenda del delitto di Roma, Alemanno ospite del TG3. Ieri sera c'era Walter Veltroni che ha accusato Alemanno di quell'episodio che avvenne quando lui andò in campagna elettorale a Tor di Quinto. Era morta dopo una violenza sessuale una giovane donna, insomma l'episodio dell'omicidio Reggiani lo ricorderete a Roma. Era campagna elettorale, Alemanno vinse le elezioni e Veltroni dice: ha vinto le elezioni su questa paura, adesso però Roma è diventata una città molto peggio di allora, è tornata la camorra, gli omicidi, dicono in effetti le statistiche, sono aumentati in questi anni, ma naturalmente non è colpa di Alemanno. Sentiamo però Veltroni. Io non farò come fece Alemanno. Alemanno fece una cosa che io considero tra le pagine più orrende della vita politica italiana. Andò sul luogo dove fu uccisa una persona, era uno dei due casi di violenza purtroppo che nel corso dei 7 anni in cui sono stato sindaco la città ha dovuto registrare, ma la città ha vissuto per 7 anni in un clima di serenità, di apertura, la città della notte bianca, la città che aveva e trasmetteva un senso di inclusione dagli immigrati appunto a questo sforzo dagli anziani davanti alle scuole, questo sforzo di integrazione. Io non farò quello che fece Alemanno. Va bene, questo la polemica tra Veltroni e Alemanno. Restiamo a Roma per la vicenda dei tassisti e sentiamo Lorenzo Pittarelli, che è presidente di una delle cooperative, la 3570, una di quelle che bloccò Roma ai tempi delle liberalizzazioni della lenzuolata di Bersani e poi dell'applicazione dello stesso Veltroni. C'è un'inchiesta tra l'altro sull'Espresso questa settimana sulla lobby dei tassisti. Sentiamo lui, Pittarelli, chiarisce quali sono le appartenenze e i legami con la politica. Ci stanno l'IPD, l'ITV, attualmente a sorpresa anche il Terzo Polo, che insomma sono le tre forze politiche che stanno tentando di condizionare Monti nel reinserire la liberalizzazione del nostro settore nella prossima manovra, la fase 2 della manovra. Invece il PDL è dalla vostra parte? Devo dire di sì, noi abbiamo avuto il senatore Gasparri che in prima persona si è speso molto per questa cosa, lo stesso sindaco Alemanno. In quale asilo grande spatti il vento bugiardo e... rispetti, stavolta ci scappa il morto veramente, stavolta va fiamme e fuoco tutto quanto, perché no. Sta storia si deve chiarire una volta per tutte. Qui esce fuori la rivoluzione, la guerra civile, sono sicuro, perché poi si uniranno a noi molte altre categorie. Questo cos'è? Le minacce velate di Pittarelli: si uniranno a noi tassisti altre categorie. Stavolta bisogna fare un chiarimento una volta per tutte, perché se no ci scappa il morto. Vabbè, insomma, cambiamo argomento e salutiamo il nostro prossimo gradito ospite, Cesare Damiano, ex ministro del lavoro. Buonasera. Che tra l'altro abbiamo strappato, vogliamo parlare con lui di cose anche serie, però cominciamo un pochino più allegri. Damiano, lei è all'inaugurazione forse di una mostra, di una galleria, di suoi disegni particolari. Lei si diletta con la pittura, col disegno. Sì, a me piace molto disegnare e pitturare. Io faccio gatti, dipingo i gatti. Solo gatti? In questo caso, sì, solo gatti, sono prevalentemente gatti. Sicuramente il mio soggetto preferito. In questo caso ho fatto alcuni disegni con un altro pittore, Fausto Luzzi, lui gli alberi, io i gatti, e quindi li abbiamo esposti. Diciamo è uno spazio di libertà che mi concedo volentieri. Ecco, a proposito di spazio di libertà, perché la battuta viene da sé, cioè vuol dire che lei ha molto tempo libero dall'attività di parlamentare, se riesce a fare tutti questi disegni, a fare delle gallerie. Non ho tempo libero, perché senza diciamo timore di poter essere smentito, sono tra quelli che, facendo i parlamentari, lavorano ininterrottamente, noi lavoriamo 7 giorni su 7. Lo dico perché l'attività del parlamentare può apparire ad alcuni un'attività leggera, se lo fai davvero è un'attività molto pesante. Poi ci sono dei piccoli ritagli di tempo. Io fin da bambino ho amato il disegno, e allora ogni tanto disegno, dipingo, ma ripeto, raccolgo tutto quello che ho. Questa cosa dei gatti è curiosa. Posso leggere una cosa che abbiamo trovato sul sito dove sono esposte le sue opere? Certo. Assonnati, acciambellati, ubriachi o innamorati, raffigurati dietro le finestre mentre guardano le nuvole passare, o come Alibaba su un tappeto volante mentre dall'alto si fanno beffa dei poveri mortali. Cioè lei è proprio innamorato dei gatti? Ma sì, a casa ho 2 gatti e poi curo molto i gatti. Questa mostra, per quello che potrà ricavare, in parte lo darà la colonia Fellina dei Gatti Romani, con la quale sono sempre in contatto, i gatti della piramide, perché bisogna nutrirli, bisogna curarli, bisogna fare in modo, insomma, che stiano al meglio. E poi penso che, insomma, amare gli animali è un po' amare le persone. Gli animali sono un tramite per voler bene al mondo. E poi sappiamo che sulla passione per gli animali, proprio gli esseri umani si dividono in 2 categorie, quelli che li amano pazzamente e quelli che, tutto sommato, non è che li odiano, però magari li ignorano perché non hanno animali. Però è curioso, lei che ha un passato di sindacalista della Fiom a Torino, cioè la città della Fiat, una persona che ha frequentato anche queste assemblee fumose con i sindacalisti, che adesso si dedica ai gatti. Cioè, se le chiedessero proprio oggi di scegliere, le facciamo fare una mostra in una galleria importantissima, in una capitale europea, oppure una serata di queste qua, una rimpatriata con i vecchi sindacalisti di queste che si discute tutta la sera, poi non si conclude mai nulla, cosa sceglierebbe Damiano oggi? Oddio, io ho passato 30 anni in CGIL, più che le serate fumose con i sindacalisti ricordo le grandi, forti assemblee a Mirafiori con migliaia di lavoratori in tempi sicuramente non facili. Penso agli anni 70, anni di lotta, di battaglia, di conflitto sindacale molto aspro, perché a quel tempo facevo il funzionario della Fiom, ero molto giovane, appunto la Mirafiori che era un po' l'università del sindacato, poi a Torino. Ma oggi che questi anni sono un po' alle spalle, sceglierebbe la possibilità di una grande mostra dei suoi disegni, dica la verità? Ma non credo, io sono legato al mondo del lavoro. Quindi una rimpatriata la farebbe, rinuncerebbe a una mostra? Ma io col mondo del lavoro non posso dire una rimpatriata, perché me ne occupo costantemente dal 1968, quando ho cominciato a fare politica, quindi continuerò ad occuparmene. Il resto è naturalmente è un ritaglio di tempo e una piacevolezza. Credo che qualsiasi essere umano abbia il diritto di avere anche degli hobby. Ma sì, parliamo allora di questo, perché è ripreso questo argomento, questa discussione sulla riforma del lavoro. Non si sa molto, si parla un po' a vuoto, a dire la verità, perché Monti ha questa tecnica di non dare grosse anticipazioni e poi a un certo punto di consultare e però anche decidere. Quello che si è capito è che il governo e con Monti, il ministro Fornero, sicuramente vogliono puntare per la crescita e per l'occupazione sia su un rafforzamento degli ammortizzatori sociali, cioè del sostegno a chi non ha lavoro in questo periodo di crisi, ma anche su maggiore flessibilità. E qua non si sa se che cosa vorrà dire. Lei è tra quelli che sulla flessibilità però è contrario. Ma guardi, intanto vorrei dire questo a Monti: se mi ascolta, vorrei chiedere di non dimenticare che il capitolo delle pensioni non è chiuso. Come ha detto Monti nella conferenza stampa di fine anno, leggendo un foglietto di Elsa Fornero, il ministro, tra l'altro era anche una mia compagna di classe a Torino quando eravamo giovani, ha ricordato che a seguito della riforma delle pensioni molti lavoratori si trovano in una condizione difficile. Il lavoro non l'hanno più perché magari si sono licenziati pensando di andare in pensione il prossimo anno e si vedono spostare il traguardo di 4, 5, 6 anni. Bene, io dico che quel capitolo è aperto perché ha creato un'ingiustizia sociale, bisogna che quelle persone possano andare in pensione con le vecchie regole. E tra l'altro, dire una cosa su questo, intanto sulle pensioni, visto che ha aperto questo capitolo. Lei tra l'altro è stato compagno di liceo a Torino con Elsa Fornero, c'è un ritratto su Panorama in queste ore, in questi giorni in edicola, che parla un po' di lei, questa ragazza sempre prima della classe, ragazza quando andava a scuola. Che ricordo ha lei di Elsa Fornero e soprattutto lei riesce a fare cose mai viste? Perché se Sacconi avesse fatto la riforma delle pensioni, gli sareste saltati addosso e l'avreste massacrato, diciamoci la verità. Invece lei... tac tac tac, riforma delle pensioni. Elsa sicuramente era la prima della classe, diciamo una secchiona, però una secchiona simpatica e di quelle che passavano i compiti, non di quelle che volevano soltanto essere le prime della classe. Cioè lei si è fatto passare il compito alla Fornero qualche volta? Può anche darsi, sicuramente era molto più brava di me per quanto riguardava le materie, diciamo, tecnico-scientifiche, quindi... Può anche darsi, francamente, questo non lo ricordo. Ricordo però una persona molto, molto studiosa, ma al tempo stesso simpatica, insomma, che stava in compagnia, facevamo delle lunghe discussioni sul mondo del futuro. Questo me lo ricordo molto bene. Ha fatto passare una riforma pensionistica sicuramente molto pesante. Io quello che ho chiesto a Elsa Fornero, ma non ho ancora avuto una risposta, è questo: di leggere la nota di aggiornamento sulla manovra del luglio scorso fatta da Tremonti, nella quale Tremonti stesso scrive che le riforme, i ritocchi fatti tra il 2004 e il 2011 alle pensioni consentiranno di risparmiare nel periodo 2015-2050 una cosa come 39 punti percentuali di spesa pensionistica in rapporto al prodotto interno lordo, una cifra colossale alla quale si aggiunge il risparmio di questa nuova riforma. Io spero che quando ci renderemo conto del grande risparmio fatto sul sistema pensionistico italiano, e ricordiamoci quello che ha detto Monti, noi a 67 anni ci andiamo prima dei tedeschi e dei francesi, potremmo anche decidere che una quota di quell'enorme risparmio possa a questo punto, senza ulteriori richieste ai lavoratori, tornare sotto forma di ammortizzatore sociale e di protezione. Ecco, qua veniamo a noi, perché c'è un legame naturalmente, si parla spesso del patto tra le generazioni. Ammortizzatori, però Monti annuncia anche di voler fare qualcosa sulla flessibilità, perché c'è questa idea che lavorando sulla flessibilità in entrata, per esempio c'è anche la proposta del contratto unico per i lavoratori con una flessibilità che graduale, inizialmente più alta e dopo qualche anno un po' più bassa. Tra l'altro su questo so che il PD deve ancora riunirsi per avere una linea, quindi non le posso chiedere la linea del PD, le chiedo se su questo c'è un'apertura da parte anche di lei, ex ministro del lavoro, vicino alla CGIL, e i sindacati adesso sono compatti nella difesa dell'articolo 18, ma si farà un passettino in questa direzione? Secondo lei sarà possibile in questa legislatura o no? Ma guardi, secondo me l'idea di rendere i licenziamenti più liberi in modo tale che questo favorisca l'aumento dell'occupazione è un'idea sbagliata, lo dico a Monti, sì. È un'idea sbagliata, nel senso che io credo che se noi vogliamo aumentare l'occupazione la prima cosa che dovremmo fare è dare risorse per la crescita e per lo sviluppo di questo paese, altrimenti occupazione in più non ce n'è. Ma il discorso del contratto unico, per esempio, invece... Guardi, io ho firmato una proposta di legge insieme ad altri 80 parlamentari del Partito Democratico che abbiamo depositato nel luglio del 2009, che parla di contratto unico di inserimento formativo. In che cosa si differenzia dalla proposta di Ichino? Che noi diciamo molto semplicemente questo: un lavoratore farà un periodo di prova lungo da 6 mesi a 3 anni come massimo. In quel periodo il datore di lavoro lo può provare, può vedere l'efficacia di quel rapporto di lavoro, la corrispondenza fra aspettative e risultati, il fatto che quel lavoratore, diciamo, segua delle regole, diritti e doveri e così via. E in quel periodo, fino a un massimo di 3 anni, il datore di lavoro potrà decidere, terminata la prova, se quel lavoratore lo tiene oppure non lo tiene. Fermiamoci un attimo qua, Damiano. Di nuovo in compagnia di Cesare Damiano, onorevole del PD, ex ministro del lavoro. Noi, a proposito di questo dibattito sulla flessibilità, sul mercato del lavoro, sugli ammortizzatori sociali, ieri sera abbiamo ospitato un rappresentante dei precari, dei giovani precari, giovani non tanto, non solo giovanissimi, perché questo aveva 37 anni, che è d'accordo sulla questione degli ammortizzatori sociali, però ha messo di fronte alla scelta tra il ministro Fornero, il governo e il sindacato, la CGIL, la Camusso, dice noi non siamo lontani da tutte e due le posizioni, ci sentiamo completamente esclusi da questo dibattito. Io le chiedo, a lei che viene appunto dal mondo del sindacato, questo non è un insuccesso per i sindacati che invece adesso si ritrovano di nuovo uniti su questa difesa dell'articolo 18, che però i precari, pur non criticando la questione dell'articolo 18, però si sentono di fatto tagliati fuori da questa situazione? Ma non c'è dubbio che con il cambiamento della tecnologia, con il fatto che la produzione è riferibile a fabbriche sempre più piccole disperse nel territorio, la globalizzazione, come si dice, ha superato d'un botto i confini nazionali per il sindacato, l'opera di protezione dei lavoratori, che in molti casi sono lavoratori precari, è un'opera molto difficile, quindi il dialogo con le nuove generazioni è sostanzialmente fallito. Il sindacato ha più facilità a raggiungere la fabbrica quando è grande, quando ci sono tante persone, quando le persone hanno delle protezioni standard. E purtroppo oggi, quando ci sono 100 persone da assumere, 80 sono assunte con un contratto a tempo, sia esso un lavoro a progetto piuttosto che un contratto a termine. Quindi è evidente che ci vuole un progetto nuovo che sia capace di sollecitare, invogliare, includere le nuove generazioni. Però, ripeto, io non penso che il punto sia quello di togliere ai padri per dare ai figli, uno slogan un po' di stampo liberista, quel liberismo che ci ha governato per 30 anni e non ci ha portato da nessuna parte se non al disastro attuale. Il problema è che si pretende di togliere ai padri senza dar nulla ai figli, perché io vorrei sapere di tutte le riforme pensionistiche che si sono fatte, che hanno ridotto ai padri, se qualcosa è andato davvero ai figli. Noi l'abbiamo fatto al tempo del governo Prodi, migliorando la totalizzazione, aumentando i contributi e così via, però la strada da percorrere è ancora una strada ampia. Allora io mi domando, qual è la cosa da fare? Io ho una ricetta molto semplice, non credo che serva né all'impresa né al lavoratore avere 40 tipologie di impiego per essere assunti, ne bastano 4 a 5, quando un'impresa ha a disposizione il lavoro a termine, quando in casi eccezionali ha a disposizione il lavoro interinale che è a giornata o a settimana, quando ha il lavoro di apprendistato, credo che abbia tutta la flessibilità del caso. E poi c'è il lavoro stabile, come dice l'Europa, il lavoro stabile in qualche modo è l'ingresso del giovane in un mondo del lavoro che gli consente di progettare la propria famiglia, fare un mutuo, comprare un'automobile a rate, cioè tutte quelle cose che quando hai un lavoro precario per un lungo periodo di tempo non ti sono concesse perché nessuno te le dà. Un'altra cosa, Damiano, salto di palo in frasca, visto che è argomento di super attualità, l'abbiamo parlato anche noi, la serie di controlli a Cortina da parte dell'Agenzia delle Entrate. Attilio Befera dice che andranno avanti, faranno altri controlli, c'è una parte del mondo politico e anche degli ascoltatori, pochi a dire la verità, però insomma qualcuno abbiamo testato anche noi in queste sere, che dicono ah, solo una cosa propagandistica. Lei che ne pensa? Ma solo una cosa propagandistica, io dico che da qualche parte bisogna pur cominciare, io per il mio stile quando ero ministro ho sempre cercato di fare delle cose, come si dice, senza troppo clamore, cioè colpire in silenzio credo che sia la cosa migliore, soprattutto colpire quelli che deviano. La evasione fiscale e contributiva è enorme in questo paese, il fatto che ci siano persone che dispongono di beni super extra lussuosi e dichiarano dei redditi da fame meno di quanto non guadagni un operaio di bassa qualifica è un'altra realtà di questo paese. Quello che a me stupisce è che ci siano alcuni politici che si stupiscano per il fatto che l'Agenzia delle Entrate fa il suo mestiere, poi si possono utilizzare delle modalità diverse meno eclatanti. Io ad esempio ho introdotto una regola quando ero ministro del lavoro in base alla quale sospendevo l'attività di un'azienda se scoprivo che più del 20% dei lavoratori era al nero. Sa in quei due anni brevi di governo Prodi quante aziende ho sospeso? Attirandomi molte ire, lo confesso. 5.000 aziende sospese. Sa quante hanno regolarizzato dopo il controllo? 2.500. Hanno messo tutto tutto in regola, hanno ripreso l'attività trasparente. 2500 sono scomparse perché erano aziende che vivevano di lavoro nero, molte volte infiltrate dalla malavita, dalla camorra, e facendo una concorrenza sleale naturalmente nei confronti facendo la delle concorrenza altre, sleale certo. Al buon imprenditore che paga le tasse e paga giustamente i suoi dipendenti. Allora sconfiggiamo questo modo barbaro di concepire il rapporto economico, il rapporto di lavoro e il rapporto con le tasse. Paghiamo meno tasse tutti, ma paghiamole tutti. Credo che poi si può andare a Capri piuttosto che a Cortina, piuttosto che da un'altra parte, ma addirittura scandalizzarci perché si pescano delle persone che sono chiaramente in malafede, io credo che questo non sia accettabile. Si fa un affronto a quelli che pagano regolarmente le tasse avendo dei redditi anche molto modesti. Damiano, ce ne hai altri due minuti per stare con noi o vuole tornare subito dai gatti? No, i gatti li abbiamo già archiviati per oggi. Però tra un po' dovrei andare. Ma allora, volentieri altri due minuti. Un minuto, le facciamo prima sentire una cosa. Voi fate una domanda o vado io? Penso che il governo negli incontri programmati debba valorizzare la ritrovata unità del sindacato e di conseguenza la coesione sociale del paese e inoltre finanziare ammortizzatori sociali capaci di tutelare il lavoro di chi l'ha perso. Non lo vedo. Rifaccio. Seconda, ormai so tutto, faccio le prove contro prove. Penso che il governo negli incontri programmati debba valorizzare l'unità del sindacato e di conseguenza la coesione sociale del paese. Non so se lo sapeva, il sito online del Fatto Quotidiano ha fatto un paio di stralci di sue interviste, anche di Matteo Colaninno, in cui vi facevate la domanda, davate la risposta, le dichiarazioni registrate. Ma perché capita questo? Ma lei lo sapeva che c'era questa cosa? Sì, gli avevano già detto. No, non sapevo che fossero così scorretti quelli del Fatto Quotidiano, comunque è una cosa simpatica. No, però le dico il titolo dell'articolo. Perché, io le dico, sì. Sa perché uno si fa la domanda e si dà la risposta? Perché quando arriviamo in sala stampa non ci sono i giornalisti, allora il povero operatore ci dice per favore. È da solo, è l'operatore da solo. Si dia la risposta. Questo è il segno dei tempi, tagliano anche i giornalisti. Tagliano anche i giornalisti. Questo lo posso confermare anch'io, qualche volta capita. Il titolo dell'articolo era il pastone politico non muore mai, i giornalisti invece sì, infatti appunto a conferma. Lei ma quando bisogna dirlo ai direttori dei giornali, sì. agli editori. I telegiornali soprattutto, perché sono quelli che creano. Lei però quando si rivede in questi pastoni televisivi la sera in cui ogni politico fa la dichiarazione di 10 secondi boom, e passa via, in cui non si capisce francamente molto, e che effetto prova rivedendo? Cioè, è soddisfatto della performance della frase di 10 secondi oppure dice ma che faccia da pirla? Non so perché. Guardi, beh sì, ogni tanto faccio anche la faccia. No, ma non la sua, cioè nel senso quegli 8 secondi incastonati. Mi è capitato, chi non capita. No, però io dico che se hai una certa capacità, un certo mestiere, quei 15 secondi che ti danno, perché ti danno 15 secondi, possono essere un messaggio che si comprende. Io mi sforzo di dire, diciamo, delle cose concrete. In quel caso, quando ho risentito quello che mi avete passato prima, ho detto due cose in 15 secondi. La prima, il sindacato se unito va aiutato a restare unito, cioè caro Monti non dividerlo. La seconda questione è mettete dei soldi per difendere quelli che perdono il lavoro o che il lavoro non ce l'hanno. Ma per uno come lei che viene e ritorna alla questione delle lunghe assemblee sindacali che si facevano negli anni 70, no? Adesso dover fare una dichiarazione in 15 secondi, ha studiato qualche tecnica, come ci è arrivata questa sintesi? Senta, io faccio politica dal 68, ho 63 anni di età, quindi faccia lei i conti. Ha avuto se tempo uno per non allenarsi. Impara in tutto questo tempo a fare una comunicazione lunga, una comunicazione media, una comunicazione breve un po'. Però dal filmato insomma l'ha dovuta rifare un paio di volte, ma vabbè questo. Ma certo, l'errore ci sta sempre. L'ho rifatta una volta, ma anche se fosse due volte è evidente che in una comunicazione breve puoi anche sbagliare una parola, ma questo è consentito. E va bene, grazie allora, buona grazie serata. A voi. Cesare Damiano. Arrivederla. Buona serata. Abbiamo strappato per qualche minuto da una sua mostra di disegni di gatti, l'abbiamo già detto, e poi abbiamo amabilmente, credo, conversato per buoni 20 minuti. Abbiamo tra poco una pausa e poi gli ascoltatori all'8. No, non abbiamo la pausa, andiamo diritti sino alle 20. Ascoltatori all'800240024. E allora, da dove riprendiamo? Da Michele che ci chiama da Torino. città di Damiano, tra l'altro. Buonasera. Buonasera, buonasera. Volevo intervenire sulla questione di Equitalia, perché a grandi linee mi è successo la stessa cosa che è successa al giornalista che ha scritto il libro. Elena Polidori, sì, sì. Ecco, eccola. Ecco, vabbè, per me la cifra era più alta, avevo avuto una piccola azienda, mi hanno contestato un pagamento, comunque senza starla a fare troppo lunga. Quella che contesto io, non dico che uno non debba pagare, ma mettete degli interessi pari all'inflazione, una rivalutazione, una cosa che uno possa far fronte, perché sennò diventa un gatto che si morde la coda. Lei ha la voce di Maurizio Crosetto, non è il Crosetto sotto mentite spoglie? No, no, assolutamente no. Che anche lui deve essere di Torino, no, Crosetto? Sì. Avete la stessa voce? Gliel'hanno mai detto? No, non me l'ha mai detto, E le dicevo, appunto, se fosse fatto in modo più equo, sì, secondo me ne prenderebbero di più di soldi. Ma lei dov'è, al bar? No, sono fermo in autogrill, veramente. Stavo viaggiando, mi ero fermato a prendere un caffè. Infatti sentivo un rumore tipo del piattino. Sì. Mi raccomando, lo scontrino, No, beh, in autogrill lo fanno sempre. Per forza. Non c'è problema. Sì. Va bene, Michele, vuole aggiungere qualcos'altro? No? Niente, solo quello, che è il modo in cui agiscono che è sbagliato. Non dico che uno non debba pagare, sì, perché se uno deve pagare, deve pagare, è inutile che... Ma fatelo in una maniera che sia veramente equa. Io le dico solo che da 4-5 mila euro siamo arrivati a più di 30 mila euro. Sì, sì, beh, i tassi sono, l'abbiamo detto anche noi, sono dell'11%, oltre il 10% in alcuni casi, e sono sicuramente tassi molto elevati, i tempi spesso si allungano e quindi poi la moltiplicazione è tale. Io l'ho scoperto per caso, io chiusi la piccola aziendina che avevo, che non andava molto bene, a fine 99, mi è arrivata la cartella nel 2006. Quindi 7 anni dopo, per cui un aumento pazzesco. Esatto. Cioè, bravo. Senza che ci fosse in mezzo nessun altro avviso, se in 7 anni è arrivata una cartella. Io non ho mai avuto nessun altro avviso fino a che non è arrivata la cartella. Vabbè, il suo è un caso da manuale. Grazie Michele. Niente, la saluto. Buona serata. Questa voce che ci ha incantato, perché è la stessa di Crosetto, uguale, pari. Roberto da Roma, buonasera. Buonasera. Sì. Allora, io sono uno di quei pochi, secondo lei, ascoltatori che un po' protestano, si indignano per questa, diciamo, operazione Cortina, ma non per il fatto in sé, per la sì, logica che c'è dietro. Provo a spiegarmi. Sì. Io sono di quelli che ritiene non che sia ingiusto, è giusto, bisogna assolutamente trovare dei sistemi, però dei sistemi validi, che non è quello di andare a fare lo show cortinese. Allora, il giorno dopo lo show vedo il direttore dell'agenzia delle entrate che dice: ah, noi abbiamo fermato tot persone con auto di lusso e voi capite, dichiaravano pochissimo. Bene, ma le auto sono dei beni intestati, si sa, è noto che se ne immatricolano, parlo di auto di lusso, se ne immatricolano, sì, 200.000 l'anno in Italia. Io direi che l'azione corretta non è andare a fare l'imboscata a Cortina, è tutti gli anni mandare al pubblico registro automobilistico gli ufficiali della Guardia di Finanza a capire a chi sono intestati e poi andare a Ma questo qua di credo che lo facciano, però io devo dire una cosa su questo dell'auto di lusso, perché è vero che le auto di lusso spesso, o comunque le auto di grossa cilindrata, possono essere auto aziendali, auto di società, però se uno ci gira il 31 sera a Cortina, che società è, mi scusi, no, questo è il punto. Sono d'accordo con lei, però guardi, io le facevo questo, completo il mio ragionamento, non le voglio rubare tempo. Io lavoro in un settore particolare che è quello della nautica, che adesso, poco prima di Cortina, è stato per giorni sui giornali, no? Perché sembra che gli unici evasori sono quelli proprietari di barche, bisognava colpirli, insomma lo stesso governo ha messo questa tassa per dare un esempio, cioè per dire che si colpivano i ricchi, si sono utilizzate le barche, eccetera. Allora, provo a spiegare qual è, secondo me, l'aspetto negativo di quel tipo di operazione. Se lei decide che 2 volte o 3 volte l'anno manda una valanga di ispettori che invadono Cortina e fa quel tipo di operazione, il risultato qual è? Che Cortina si svuota del turismo, perché lei, che non ha nulla da temere e che immagino sia anche un reddito dipendente, quindi non ha proprio nulla da temere, a Cortina non ci va semplicemente perché quando è con la sua moglie e i suoi bambini non le va che ogni 100 metri la fermano in auto per chiedere di chi è l'auto. Scommettiamo che l'anno prossimo a Cortina ci sono le stesse persone pari pari di quest'anno, che il Blitz se lo saranno dimenticati tutti. Per esempio, vede, nel nostro settore, le dicevo, io lavoro nella nautica, questa tipologia di controlli tipo Cortina nei porti avviene già da 3 anni. Ora, esatto, forse non abbiamo la forza di ribellarci come è stato nel caso di Cortina, caso eclatante sui giornali. I porti italiani, i marina turistici, sono battuti da circa 3 anni. Lei guardi, fa un numero a casa di un paio di gestore di approdo turistico e scoprirà che vengono visitati almeno 2 volte l'anno, dove si chiede chi va sulle barche, con chi ci va. Ma scusi, ma se diciamo sempre che dobbiamo prendere il grande evasore e le grosse barche costano un sacco di soldi, dove devono andare se non nei porti? Sono beni registrati. Il tema è questo, che se un ufficiale di Guardia di Finanza va in capitaneria di porto non lo viene a sapere a nessuno. Basta che fa un blitz a Ferragosto in Costa Smeralda e l'attività per la pubblicità. A parte che la pubblicità lei sa quanto vale questo tipo di pubblicità con il mestiere che fa, quindi credo che un po' mi comprenda in questo. No, io comprendo, certo, la pubblicità. Io però comprendo anche un'altra cosa, che se l'Agenzia delle Entrate va in cerca di pubblicità a Cortina anche per mandare un messaggio forse a quegli italiani onesti che ricevono le cartelle di Equitalia costretti a pagare e sono infuriati, dopodiché questi italiani onesti che ricevono le cartelle di Equitalia e sono infuriati vedono che si fanno anche delle altre cose, e questa è una forma di pubblicità, però non ci vedo niente di sbagliato in questo. Comunque grazie, chi era? Roberto che chiamava da Roma, sì. Adesso invece passiamo a Mario che ci chiama da Milano, buonasera. Buonasera a lei, in realtà non mi chiamo Mario, però lavoro per l'Agenzia delle Entrate. Nome. E quindi c'è dato un nome di fantasia. Non ho alcuna autorizzazione a parlare alla radio, per cui diciamo che mi chiamo Mario. Allora, io faccio il mio lavoro, mi rendo conto che i politici hanno le loro esigenze di pubblicità, di rapporto con l'elettorato. Tuttavia, sentire quello che ha detto Straguadagno da Formigli ieri sera, ripetuto alla vostra radio, secondo il quale il 40% del nostro lavoro viene smentito dai giudici, che è clamorosamente una bugia, nel senso che soltanto un accertamento su 100, meno di uno su 100, viene impugnato di fronte ai giudici. Per cui il nostro lavoro viene smentito dai giudici soltanto nello 0,04% dei casi. Vuol dire che noi abbiamo una percentuale di successo che è veramente vicina al 100%. E sentire un politico, un rappresentante del popolo, che denigra il nostro lavoro con dei dati così clamorosamente falsi. Allora, scusi, facciamo un attimo chiarezza, ci aiuti, cioè chiarezza. Lei ci dirà quello che sono i dati secondo il suo punto di vista, perché Straguadagno in quel passaggio, adesso magari lo risentiamo, diceva che il 40% dei ricorsi finiscono per dare ragione a chi fa ricorso contro il fisco e quindi diciamo così smentiva il vostro lavoro. Risentiamo questo passaggio di Straguadagno. Le racconto un episodio che mi riguarda. Ho un'auto del 99, ereditata da mio padre, delle stesse caratteristiche che ha descritto Volpietro. No, non è questo Straguadagno, quello giusto, dovrebbe essere l'altro, se ce l'abbiamo, proviamo. Io affermo che noi abbiamo fallito sul piano fiscale e affermo che abbiamo concesso al fisco poteri inusitati. Sì, no. Che se non è neanche concesso. Questo, ma non importa. Lei ha sentito bene, Straguadagno ha dato questa cifra. Adesso la frase esatta non ce l'abbiamo, ma insomma. E lei invece dà un'altra cifra, dice che. No, non è, la cifra è corretta. Ecco. Peccato che quando io chiedo dei soldi a un contribuente, solo una volta su 100 il contribuente va dal giudice. Ah, ok, quindi di questo 1%. Le altre 99 volte il contribuente incassa la mia inteso come quella dell'Agenzia delle Entrate, senza battere ciglio. Vuol dire che 99 volte su 100 il contribuente riconosce come corretto il nostro lavoro. E invece quando c'è il ricorso, nell'1% dei casi, e in quel caso allora il 40% 4. Hanno ragione. Però si tratta dello 0,04, cioè il 4 per 1000. No, il 4, adesso sto dando i numeri, ma insomma abbiamo capito. Prego, comunque Mario, lei fa questo lavoro, ci vuole raccontare qualcos'altro di questo suo di questo suo. Ma le racconto quello che le pare, sì. Ma la cosa che io trovo. No, ce lo dica lei, nel senso. La cosa che io trovo imbarazzante è che un funzionario dello Stato, come me e come tutti gli altri come me, venga denigrato pubblicamente da coloro che sono i rappresentanti del popolo e sono coloro che dovrebbero organizzare il nostro lavoro, strutturarlo nella maniera corretta, fornirci. Vabbè, questo lei ha già detto, cioè lei dice non si sente sorretto dalla classe politica, anche se la classe politica non è tutta d'accordo con Straquadagno, perché per esempio Monti ha detto il contrario, ha detto no, Equitalia va difesa, bisogna, grazie a queste riscossioni di questi tributi che si danno i servizi eccetera, quindi bisogna fare delle distinzioni poi nella classe politica e ognuno dal suo punto di vista, no? Mi segue su questo? Veramente fare una distinzione. Sì. I soggetti come Straquadagno interpretano in una maniera che io trovo abnorme la funzione che loro svolgono, tutto qua, molto semplicemente, e lo leggo dal punto di vista, e è fondamentale perché coloro che poi l'agenzia è costretta a fare cose come Cortina, che obiettivamente, anche lette dall'interno, sono delle mere operazioni di natura estetica, lo sappiamo anche noi, è evidente che è così, però non possiamo fare la gara a chi ha più accesso ai giornali, ai titoli, mi sembra in una maniera non corretta per interpretare il ruolo che noi svolgiamo, o no? Ma questa cosa che lei dice, sappiamo anche noi dall'interno che sono cose estetiche, diciamo azioni anche di propaganda, è una propaganda, come dicevo anch'io, che serve a mandare un messaggio anche agli italiani ed eventualmente agli evasori, oppure, come sosteneva l'ascoltatore, messaggi, non lo so, per una pura ricerca di pubblicità e per qualche forma anche di carriera, forse da parte dei dirigenti? Quando io ho i contribuenti, sì, di fronte a me, tutti quanti mi dicono, ma perché non prendete quelli più ricchi di me? Esatto, è proprio questo. L'argomento è il benaltrismo, no? Il principale argomento che io mi sento fornire è, però c'è ben altro rispetto a me. Quindi? Allora, che è chiaramente un abominio logico, chiaro? Allora, l'agenzia, avendo i soggetti come Straquadagno che hanno accesso alla TV, si procura un accesso televisivo facendo le operazioni sui ricchi o su quelli che appaiono sfacciatamente ricchi, in modo tale da far capire ai soggetti che domani riceveranno un mio accertamento che non ce l'hanno soltanto con lui, povero barbiere di provincia, ma ce la prendiamo anche con quelli che sono sfacciatamente ricchi a Cortina. Ma non mi sembra questo il modo per arrivare ad avere una fedeltà fiscale e un corretto comportamento dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e dei cittadini in termini di fiducia verso l'amministrazione, che stabilisca un sano rapporto di fedeltà fiscale, o no? Va bene, grazie Mario, grazie per questo suo lungo e anche appassionato intervento. Andiamo a Ruggero, che ci chiama da Barletta. Buonasera. Sì, salve, buonasera. Eccoci qua, la sentiamo forte e chiaro. Salve, io, lei è il dottor Parenzo? Il dottor Parenzo? No, il dottor Parenzo non sono io. Ah, non è lei. Allora io posso fare una proposta di cambiare il dottor Parenzo con lei, perché lei mi sembra molto più dotto nelle condurre. No, non lo so se sono dotto, però lei prima ha fatto la battuta, il dottor Parenzo, non lo so. Ma sì, no, perché non se ne può più, ecco, volevo, sì, fare solo questo appunto prima di fare del mio intervento. Ecco, questa era una proposta a Radio 24, perché non se ne può più del dottor Ma sai, è una questione di gusti, gusti, punti di vista, ogni ascoltatore c'ha il suo. Comunque, no, che le dico? Sì, sono quasi Ruggero. Verso la mia, ecco, quindi. Sì, Ruggero, dica quello che voleva dire. Sì. Per quanto riguarda invece, secondo me il governo non vuole scoprire chi sono gli evasori fiscali, perché è semplicissimo, basta vedere chi ha macchine, yacht, case, e fare una verifica di quanto alla fine dell'anno dichiara, cioè non ci vuole mica per forza una retata lì a Cortina o il prossimo anno, magari quest'estate a Porto Cervo, per vedere chi ha il SUV o il macchinone, secondo me, ecco. Quindi è semplicissimo, secondo me il governo non lo vuole fare, perché avrà i suoi interessi e quindi di conseguenza non lo scopri mica, ecco. Come detto, allora i titoli dei telegiornali di mezzasera, TG1. Monti da Sarkozy, il nostro sforzo è straordinario, altre misure tra due mesi, il 20 gennaio a Roma, vertice Italia, Francia, Germania. Evasione fiscale dopo Cortina, altri controlli nelle località VIP, l'Agenzia delle Entrate, facciamo solo il nostro dovere. Duplice omicidio di Roma, ritrovata la borsa con 10.000 euro, forse un terzo killer, Alemanno, interi quartieri fuori controllo. Raffiche oltre i 150 km orari, mare in tempesta, 4 feriti su un traghetto dalla Sicilia. Lotteria Italia, stasera i vincitori, fra poco su Rai 1 la puntata speciale della prova del cuoco con Antonella Clerici, con l'estrazione dei biglietti fortunati, primo premio 5 milioni di euro. Dunque, abbiamo Angelo che ci chiama da Roma. Buonasera e benvenuto. Buonasera a lei, grazie dell'ospitalità. Prima di tutto, se mi permette, dottore, vorrei porre le mie condoglianze a quella famosa signora che ha avuto quel maledettissimo, come chiamarlo? Cosa? Non mi vergogno, vabbè, che purtroppo ha perso il marito e la bimba. Dopodiché, sta parlando di quello che è successo nella sua città, qui a Torpignattara, a Roma. Poi mi volevo rilasciare solo per un attimo a ciò che ha detto Bertoni e la signorina, la vostra collaboratrice che ha preso la telefonata, sa benissimo che io questa chiamata l'ho fatta prima che intervenisse Bertoni, quindi non è che adesso parlo questo così perché l'ha detto Bertoni, sì. Ma volevo dire proprio che il nostro caro sindaco all'inizio prima del suo mandato, ha fatto una campagna elettorale veramente scandalosa su questo, la sicurezza di Roma. Tutti quanti, tutto il PDL, ma non per attaccare il partito, ci mancherebbe, ha fatto la campagna sulla sicurezza di Roma e purtroppo qui ci siamo resi conto che siamo veramente a Chicago degli anni 30. Detto questo, passo un attimo alla storia di Cortina e soprattutto volevo passare un attimo alla storia dei tassisti. Anche questa, la signorina, vostra collaboratrice, mi è testimone che la chiamata l'ho fatta prima, proprio che gli ho detto che volevo parlare di tassisti, e guarda caso è intervenuto il rappresentante dei tassisti che ha detto quello che ha detto, cioè: come può quel signore dire che blocchiamo Roma e facciamo un bagno di sangue, ci scappa il morto? Cosa vuol dire? Ma anche noi siamo disponibili a far scappare il morto se è così? E io spero soltanto che sia lui che disgraziatamente succede qualcosa del genere. Come si permette? Blocchiamo Roma, ma come ti permetti? Ma ti blocchiamo noi a te, non blocchi Roma tu. Cioè, ma chi sei per bloccare Roma? Hai ragione di reclamare i tuoi diritti, cioè quello che tu pensi che sia giusto, ma nelle sedi appropriate, no che tu blocchi Roma. Cioè, che vuol dire questo qui? È un ricatto che tu stai facendo a tutti quanti, ma i cittadini italiani e romani soprattutto in questo caso possono benissimo bloccare voi, ho capito? Benissimo, in un certo modo. E dopodiché adesso volevo dire tassisti. Lei il taxi non lo prende mai, né mai lo prenderà più dopo queste dichiarazioni? Ma io guardi, il taxi, siccome non ho la macchina, lo prendo spessissimo purtroppo. Allora, lo dico francamente, e purtroppo mi serve per andare all'ospedale, guardi, dico anche che a casa lo prendo il taxi, mi serve per andare purtroppo spesso all'ospedale. Ma voglio dire a questi signori, visto che si riscaldano tanto, ma perché non cominciano a rilasciare le ricevute fiscali di sì? Perché non lo fanno? Ma quanto dichiarano loro? Invece di andare a Cortina, dovevano andare sui taxi a vedere le ricevute fiscali che fanno questi signori. No, che si permette di dire blocchiamo la città, ci scappa il morto, ci scappa il sangue. Ma stiamo Io anch'io ho detto che la frase suonava come una minaccia, neanche tanto sottile. Beh, è vero però che quando si parla di riforme economiche, ci sono delle categorie sociali in mezzo, frasi del genere abbiamo sentito dire altre volte anche in campo di manifestazioni sindacali, forme di esasperazione. Ci saranno delle tensioni, ci scappa il morto. Lo stesso Di Pietro mille volte da un altro pulpito ha usato un'espressione del genere. Può anche non essere una minaccia, ma semplicemente una forma di, cioè una, la dichiarazione di una esasperazione al quale loro, i tassisti, dicono di essere portati. Non lo so, Angelo voleva dire qualcos'altro. Sì. Sì, vabbè, l'avevo già detta sta cosa. Sì. Vabbè, grazie Angelo, grazie. Facciamo un passo in avanti. Abbiamo i titoli? No. Niente titoli della 7, tra poco. Nicola da Reggio Emilia, intanto buonasera. Pronto, buonasera. Sì, prego. Intanto complimenti per la trasmissione, perché grazie. Comunque è bravo quanto Cruciani, se non di più. Non vorrei sminuire Cruciani, però comunque è bravo. E non sminuiamolo, no, infatti. io faccio una premessa brevissima, poi dopo due cose che volevo dire. Sì? Per quanto riguarda la... Allora, io sono un operaio metalmeccanico, 30.000 euro lordi di reddito all'anno. Quando sento queste cose qua che sono capitate a Cortina, ma io, per me, io farei proprio uno stato di polizia in Italia. Ma non è possibile che ci sia qualcuno che dica che è sbagliato fare queste cose qua. A lei gli hanno mai regalata l'auto da 30.000 euro, come dice Boldi sul Corriere, che dice, ma una macchina da 35.000 euro, che vuol dire? Potrebbe anche essere il regalo di un'amica. Guardi, io lavoro da solo e ho 4 figli, di cui 3 alle superiori, quindi non le dico cosa devo fare per tirare avanti, che non tiro. Niente amici generosi che regalano macchine di lusso. Purtroppo no, sono lo sfigato della situazione. Io potrei fare tranquillamente il film di cosa Natale a Cortina, però dei poveracci, straccioni, insomma. Detto questo, ripeto, per me lo stato di polizia sarebbe più che giusto. Io volevo dire due cose. Sento spesso dire che il governo Monti non va bene perché non è legittimo, giusto? In tanti lo dicono perché non è stato eletto. Ma una piccola constatazione, ma la nostra è una repubblica parlamentare. Il Parlamento è quello che abbiamo eletto. Noi non abbiamo mai eletto il governo. Il Presidente del Consiglio non l'abbiamo mai eletto, quindi non riesco a capire perché ci si meravigli di questo fatto qua. Secondo me è una cosa che non ha né capo né coda, come si suol dire. Ecco. Grazie Nicola, è vero, questo è vero, nel senso che noi eleggiamo il Parlamento poi dà la fiducia al governo, il governo riceve questa fiducia e quindi non c'è un legame diretto tra gli elettori e il governo. Per quanto un concetto abbastanza semplice, devo dire che molti, sia ascoltatori che comunque persone, spesso cascano in questa cosa qua. Ma insomma, titoli della 7. Monti incontra Sarkozy a Parigi e passa la fase 2 anche in Europa. Dall'Italia sforzo straordinario senza pari. Insieme al presidente francese dice: noi crediamo nell'euro, l'Unione è debole, ora agisca. Piena consonanza, mano della mano tra Francia, Germania, Italia. Ma dal vertice di Parigi il professore lancia anche un messaggio alla politica italiana, avverte: nei prossimi 2 mesi vareremo nuove misure economiche. Per ora non specifica quali, ma si tratta evidentemente del mercato del lavoro. Intanto mercoledì ci sarà un incontro anche con la Merkel. Smussare le rigidità tedesche sul ruolo della BCE, dice ancora oggi Monti. Ma le cose vanno male, le borse sono ancora in rosso, Milano chiude a meno 0,82 e soprattutto lo spread tra BTP e Bund tedeschi vola a 530. Ma fa notizia anche il terzo fragoroso tonfo consecutivo per Unicredit, che in 3 giorni ha perso il 14,17% e oggi l'11%, metà dell'imminente ricapitalizzazione da 7 miliardi e mezzo. Dopo il blitz antievasori di fine anno a Cortina, il capo dell'Agenzia delle Entrate Befera annuncia nuovi accertamenti in altri luoghi di residenza esclusivi. La polemica si rinfoca, il PDL parla di spettacolarizzazione dei controlli, la Lega chiede verifiche al Sud, Di Pietro applaude, continuate così. Non ho riso del terremoto dell'Aquila. Ai microfoni del TG a 7 l'imprenditore Francesco De Vito Piscicelli conferma che da luglio racconta ai magistrati il sistema delle tangenti messo in piedi dalla Cricca, ma parla anche delle sue recenti cattive figure. Non mi hanno ritirato la patente di volo, racconta. Il 26 dicembre atterrò in elicottero sulla spiaggia di Ansedonia per portare a pranzo l'anziana madre. A Roma potenziati i controlli di polizia per catturare i rapinatori che 2 giorni fa hanno ucciso un commerciante cinese e fredato anche la figlia di pochi mesi che l'uomo teneva in braccio. Stamani ritrovata la borsa nella quale la vittima teneva i 10.000 euro di incasso del suo bar. I killer l'hanno abbandonata. In Siria venerdì preghiera ma anche di sangue. Nel centro di Damasco kamikaze si fa esplodere, provoca 25 vittime e una 50 di feriti. Opposizione di nuovo in piazza, altri 15 morti nella repressione del regime. Poco fa un generale appare Al Jazeera. Passiamo dalla parte degli insorti. Di nuovo in diretta e anche con un ospite per parlare di un argomento che interesserà gli ascoltatori calabresi e delle regioni limitrofe o comunque tutti quelli interessati a questo argomento. Paolo Pollichieri, direttore del Corriere della Calabria, buonasera. Buonasera. Autore di un libro, Casta Calabria, la politica sempre meglio che lavorare. È questo il titolo col sottotitolo completo? Insomma, detto così sembra castità, Casta Calabra. Casta Calabra, sì, ho letto male. Casta no, Calabra. Può capitare. Non è male, Casta Calabria sarebbe stata tutta un'altra cosa. Un auspicio più che un titolo dal libro. mi pare che di casto ci sia poco in quello che voi avete sollevato. Allora, voi avete fatto un libro, credo con anche alcuni suoi collaboratori, nel quale... Sì, con Antonio Ricchio, insieme a Antonio Ricchio che si occupa di politica, Giampaolo Latella, Pablo Petrasso ed Eugenio Furia. Questo è il gruppetto che ha lavorato al libro, nel quale denunciate una serie di sprechi da parte della politica calabrese, non solo di quella regionale in carica ora, cioè non solo Scopellitti, ma anche cose che risalgono allo ieri. Magari fosse un vizio dell'ultimo anno. Dite voi, viene da lontano. Tra l'altro, diciamo che c'è stata una stagione anche di virtuosismi, per cui noi dedichiamo anche il libro ad alcuni politici regionali che ahimè sono passati a miglior vita e che all'inizio del regionalismo avevano dato anche un'etica e una moralità alla politica calabrese. Poi purtroppo quando le regioni sono diventate una cosa seria, nel senso che hanno avuto la delega in molte materie, soprattutto nel settore della sanità dove sono arrivati un sacco di soldi, e allora lì è cambiato tutto, gli avventurieri hanno preso il posto, diciamo, degli oculati amministratori. Una sorta della casta, diciamo, versione calabrese, per far capire agli ascoltatori. Adesso sì, il modello a cui ci siamo ispirati è indubbiamente il libro di Rizzo e di Stella, solo che ai noi, da queste parti, insomma, si trova molto più materiale. Il materiale abbonda, Non è solo quello che fanno, ma è anche il modo è veramente. Avete già ricevuto Polichieri, mi scusi, aspetti, adesso poi la faccio parlare. Avete già ricevuto, quando è uscito il libro, da quanti giorni? Il libro è uscito da un mese manco, da metà dicembre, diciamo. Avete per caso ricevuto qualche denuncia, qualche querela per quello che avete detto? No, si guarderanno bene dal farlo, perché questo non consentirebbe alla magistratura di continuare ad essere distratta rispetto ad alcune cose. No, se si fa una querela poi si deve fare un processo, ma poi ripeto, noi non abbiamo preso altro che gli atti che sono pubblici, che sono i documenti. No, ma infatti era solo per chiarire. No. A me ha colpito di quello che so di questo libro, per esempio una cosa, il fatto che voi dite anche dal punto di vista della formazione professionale e culturale, cioè è peggiorata. Adesso ci sono molti meno consiglieri regionali che hanno studiato, che hanno una laurea, e poi ci sono molti che non hanno mai lavorato in vita loro. Sì, questa è un po' la saldatura con quello che dicevo prima, cioè quando la politica è diventata una cosa per sistemare il famiglio e se stessi, sono arrivati gli avventurieri della politica. Per cui noi abbiamo notato una cosa molto strana: nel 1970, quando si è insediato il primo consiglio regionale, la Calabria non aveva nessuna università. La prima università arriva in Calabria e arriva a Cosenza nel 72. Eppure l'alfabetizzazione dei consiglieri regionali calabresi era doppia di quella di oggi. Per esempio oggi noi abbiamo la metà quasi dei 50 consiglieri regionali che non ha una laurea. Ora non è che io dia alla laurea questo valore assoluto, però è indicativo, visto che oggi in Calabria ci sono 4 atenei universitari. E poi nessuno. 16 consiglieri regionali non hanno mai presentato un modello 101, cioè non hanno mai conosciuto il rapporto col mondo del lavoro. Quindi o sono degli enfant prodige della politica, oppure gente che non ha esperienza professionale, quindi uno può presumere hanno anche poco da dare alla collettività in termini politici. Devo dire, è un po' così, c'è gente che non ha mai presentato, perché da quando aveva 18 anni ha sempre fatto politica. Certo, politica. Cioè, lo stesso presidente del consiglio regionale, voglio dire, quindi che non è che debba essere necessariamente vissuto come un demerito, però oggettivamente non ha mai ha fatto sempre o il consigliere comunale, o il consigliere regionale, o il sindaco, o il presidente, o l'assessore. Insomma, il fatto che stia in politica da quando aveva 17 anni gli ha impedito di lavorare. Insomma, fin qua uno potrebbe dire la laurea, ma chi se ne importa, eccetera. La questione, per esempio, poi ce ne sono tantissime, del costo della sede della regione, che è molto più alto. Voi fate un raffronto, per esempio, con la sede dell'Emilia Romagna, che ha molti più abitanti della Calabria. Sì, questo è poi il capitolo degli sprechi, ripeto, ci porterebbe lontanissimo, ma la cosa più grave è che anche oggi, in presenza di questo libro, per quello che conta, di un'attenzione che c'è Ma le ultime, ripeto, il libro è andato in edicola il 17, adesso vorrei 18 di dicembre, giù di lì. Da allora ad oggi abbiamo registrato ulteriori cose, faccio solo un esempio: c'era un solo segretario generale, come era ovvio che fosse, al Consiglio regionale. Nella leggina di fine anno, dovendolo mandare a casa per sostituirlo con uno più bravo nel fare le leggi, si sono inventati il posto di direttore generale. Quindi quello che una volta era un solo posto adesso è diviso in due. Hanno rivisto il CORECOM, uno dei componenti del CORECOM uscente non veniva confermato, è stato istituito per lui il posto di consulente della comunicazione per il Consiglio regionale, laddove c'è anche un ufficio stampa con 8 giornalisti, dico 8, e con un portavoce del Presidente del Consiglio regionale. Cioè il problema non è quello che è successo, è che nonostante le denunce, l'attenzione e la crisi, continua a succedere come se nulla fosse. Poi c'è la questione, voi dite, un altro capitolo è quello della mancanza di trasparenza, per esempio nei lavori dati in concessione, gli omissis, ma anche la questione di questa convenzione con la società lombarda per la costruzione di 4 ospedali. Però questa gliela chiedo tra un attimo, perché prima invece dobbiamo fare il traffico e poi torniamo tra un attimo con Polichieni, direttore del Corriere della Calabria. Strade in diretta. Circolazione scorrevole su strade e autostrade, ma raccomandiamo la massima prudenza alla guida. Spostamenti infatti sempre difficili per il maltempo al centro-sud. I disagi maggiori sono causati dal vento forte, in particolare sulla 3 Salerno-Reggio Calabria. Il transito è vietato a tutti i veicoli tra Sibari e Atena Lucana sulla carreggiata verso Salerno. Autostrada chiusa per furgoni telonati e caravan tra Lago Negro e Mormanno. Attenzione ai tratti ghiacciati in Appennino, deboli nevicate in corso tra Basilicata e Campania, nevischio sulla 16 Napoli-Canosa tra Baiano e Candela. Sempre per il maltempo è interrotta in Toscana la linea ferroviaria Lucca-Aulla, la ripresa della circolazione è prevista per domani mattina. Per il maltempo e per il momento, scusate, è tutto, torniamo tra circa mezz'ora. La Zanzara. Per il maltempo è tutto, ha detto il collega del traffico, questo non è male, sono abituati a parlare anche delle conseguenze del maltempo sul traffico. Polichieni, la questione che dicevamo poco fa, no, della mancanza di trasparenza che voi denunciate in alcuni atti, molti atti della regione, perché è giusto che il cittadino sappia come vengono spesi i soldi, invece ci sono una serie di leggine, di provvedimenti con degli omissis sul nome dei destinatari di alcuni finanziamenti. Esattamente, e questo impedisce di capire, perché il nome ti dà anche la contezza sulla qualità dell'investimento. Ecco, ma ci faccia qualche esempio, tanto per così gli ascoltatori capiscono. Io posso aver dato 10.000 euro per pagare una consulenza legale, ma se non conosco l'avvocato, quei 10.000 euro possono essere tantissimi o possono essere pochissimi, oppure posso scoprire che quell'avvocato è il fratello o comunque il parente o l'amico di un consigliere regionale. Cioè, che valutazione posso dare io se non so quei soldi a chi sono stati dati e perché sono stati dati? Questo è un esempio. Poi quello degli ospedali è francamente così, proprio taglia le braccia, perché gli ospedali, questi 4 ospedali nascono dal fatto che negli ultimi 25 anni era stato un proliferare di piccoli ospedali che non garantivano nulla, per cui la gente moriva di parto, moriva di mille piccole cose, e allora si è deciso di fare 4 grandi ospedali, ma intanto chiudendo i piccoli che erano delle trappole. I piccoli non sono stati chiusi, i grandi li doveva gestire la Protezione Civile all'inizio. Poi si decise di farli appaltare alla Stazione Unica Appaltante, che è una struttura di cui si è dotata da poco la Regione Calabria, ci ha messo al vertice anche un magistrato molto famoso in passato, che poi è andato in pensione, una struttura quindi che costa, che ha delle spese, eccetera, e che però non gestirà nemmeno lei questi 4 ospedali, perché li gestisce una struttura in house della Regione Lombardia, che poi in quel di Como ha avuto anche qualche disavventura ancora non del tutto chiarita, insomma, ma soprattutto con un codicillo che noi abbiamo sottolineato più volte, che toglie qualsiasi trasparenza, nel senso che loro possono segretare tutto o parte della procedura che useranno per dare in appalto questi ospedali, che insomma a queste latitudini non è il massimo della tranquillità, insomma. Pollichieni, poi c'è anche la questione dei vitalizi. Tra l'altro le chiedo, da cronista, su questo fronte la Calabria si è già adeguata al taglio dei vitalizi dei consiglieri regionali o ancora no? Ma assolutamente no. Intanto ha promesso che lo farà dalla prossima legislatura. Sì. Questo è un po' tutti, però, un po' tutte le regioni. Sì, ho capito, però già da questa legislatura si poteva dare un primo segnale sui tempi tecnici che occorrono per maturare il vitalizio e soprattutto su quando si inizia l'erogazione del vitalizio, perché poi quello che nessuno dice è che se nel codicillo tu metti che recepisci come invalidante anche l'attività politica, no, per cui noi abbiamo una serie di consiglieri regionali del passato che hanno avuto un'ischemia, un infarto e che avendo riconosciuta poi l'invalidità anticipano il periodo in cui vanno ad usufruire del vitalizio. Per cui voglio dire, è l'unico modo per orientarsi bene, è quello della spesa. Inutile che noi vediamo il codicillo, perché quello è fatto per distrarre l'attenzione dall'obiettivo principale, che è quello della spesa. La spesa ci dice, se monitoriamo la spesa, ci dice che continuiamo ad essere tra i consigli regionali che anche in termini di previdenza spendono di più. Punto. Pollichieni, ricordo, autore di Casta Calabra, questo libro di denuncia sugli sprechi della politica regionale calabrese, un po' ce ne ha raccontati, altri ancora li vedremo in futuro. Le voglio chiedere un'altra cosa, qualche giorno fa si è letta che a fine anno Scopellitti, presidente della regione, ha parlato di finanziare il progetto dell'aeroporto di Sibari con 30 milioni di euro, quello che apparirebbe come il rischio di un altro grande fiume di denaro che non si sa bene dove vada, perché la questione degli aeroporti è una questione italiana, cioè ogni cittadina che vuole il suo micro aeroporto, perché Scopellitti diceva il problema della Calabria adesso è l'isolamento. Che notizie avete su questo? Il che è vero, però io non vorrei che si crea l'emergenza per poi legittimare lo spreco, perché questo anche in passato è stato fatto. Che la Calabria abbia un isolamento dovuto da un'autostrada che non finisce mai, però bisogna capire quale ente territoriale ha autorizzato il rifacimento di questa autostrada e non della costruzione di una nuova che sarebbe costata di meno e sarebbe stata pronta in tempi minori. Io vorrei capire quale ente territoriale ha autorizzato l'ANAS a usare una corsia della Salerno-Reggio Calabria come corsia di servizio, cioè che significa che pur dovendo essere abbandonata non può essere oggi frequentata perché è in uso ai camion di chi deve costruire l'autostrada. E poi c'è quel problema delle ferrovie, ma anche lì se noi teniamo un carrozzone come le ferrovie calabre e poi pretendiamo che il servizio lo garantisca l'ex ferrovia dello Stato, è chiaro che non usciamo con i conti. Ma io stesso sulla questione degli aeroporti sono stato testimone di una scena allucinante, cioè in occasione dell'inaugurazione di un nuovo segmento dell'aeroporto di Lamezia che coincideva con il 2 milionesimo, si è arrivati a 2 milioni di passeggeri che passavano dall'aeroporto Lamedino, il capo dell'ENAC, Vito Riggio, davanti a tutti i politici, bisogna dare atto a Riggio di essere stato di una lealtà, di una chiarezza estrema, davanti a tutta l'intelligenza politica calabrese, di destra, di centro e di sinistra, ha detto: guardate, voi avete 3 aeroporti, scordatevelo, perché noi possiamo rendere efficiente ed economicamente vantaggioso uno, per cui sugli altri 2, eccetera. Noi gli abbiamo risposto aprendone il quarto, allora voglio dire su questo veramente, perché ormai ognuno non dà conto se non all'orticello, al campanile, e la programmazione non esiste più. Io non so a quando risalga l'ultimo piano. E tra l'altro il ministro dello sviluppo Passera ha detto che su questa questione degli aeroporti ci sarà qualche modifica e verrà fatto, credo di aver capito, un piano nazionale. Grazie intanto e buona serata. Paolo Pollichieni, lettore del Corriere della Calabria e autore, come abbiamo già ripetuto, del libro Casta Calabra. 20 e 24, ancora qualche minuto per i vostri interventi. Carlo da Milano, buonasera. Buonasera. Sì. Buonasera, io volevo confessare, sono un evasore. E sono un evasore perché non pago il canone della RAI. In verità io sono un dipendente privato come mia moglie, quindi pago tutte le tasse, 40-45% di imposte dirette, però non pago il canone. Beh, dai, una piccola evasore, insomma. Sì, diciamo un piccolo evasore, ma voglio pigliare lo spunto per dire che ci fa sempre attenzione agli evasori, ma non come vengono spesi i soldi che ci viene chiesto. Per cui viene chiesto questo dazio che io non pago, ma perché? Per pagare i vari minzolini che diminuiscono lo share del TG1 al 10%, per mantenere tre corrispondenti all'estero, ognuno per ogni testata, quindi un corrispondente a New York per TG1, per TG2, per TG3. Ecco, io lavoro in un'azienda competitiva, mi trovo ogni giorno a competere con i cinesi, a dare il massimo. E perché nelle aziende pubbliche, specialmente la RAI, che adesso sto citando, non viene fatto nessuno sforzo, non viene nessuno responsabilizzato di quello che fanno? Ci chiedono i soldi, però non fanno niente. E questo voglio pigliare come spunto, perché è importante che voi abbiate parlato dell'evasione fiscale in questi giorni, ma altrettanto, secondo me, e fa bene lei con lo servizio che ha appena fatto, a parlare anche di come viene speso questo denaro. Perché con la pressione fiscale diretta al 45%, devi dare di salto come vengono spese questi soldi. E va bene, Carlo, sì, questo è naturalmente verissimo, è l'altro lato della medaglia ed è un altro capitolo. Forse meno in luce in questi giorni in cui si parla molto di questa blitz a Cortina e appunto gli italiani che hanno ripreso a discutere di lotta all'evasione fiscale dividendosi tra chi è favorevole a cose come quella di Cortina e chi invece no. Andiamo a Giuseppe che ci chiama da Roma, buonasera. Buonasera. Sì, prego. Senta, io allora innanzitutto sono il segretario generale dell'Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà, che è un'associazione di cittadini che ha anche molti appartenenti alla Guardia di Finanza in servizio come propri iscritti. Cioè un'emanazione, un'associazione di per lo più sì, di finanziari. Sì, un'organizzazione civica, sì. Ex articolo 118, ultimo comma della Costituzione, sussidiarietà orizzontale e quant'altro, insomma. No, ecco, volevo entrare sul discorso, dire rapidamente con riferimento a Cortina. Innanzitutto è assolutamente un'apertura positiva ed è positivo anche che si continuino a fare attività di questo genere, naturalmente forse nel modo meno invasivo possibile, ma comunque è un segnale, è chiaro che è un segnale al paese e ai cittadini, quindi questo fa bene il direttore Befera, all'Agenzia delle Entrate a dare queste indicazioni, quindi sono completamente d'accordo con quello che ha detto il dipendente dell'Agenzia delle Entrate che ha parlato una mezz'oretta fa questo signor Mario. Sì, Mario, ecco, presunto, però c'è sì. Da dire che questo apre però in realtà mette all'attenzione alcuni problemi che ci sono. Innanzitutto almeno tre ordini di problemi rapidamente. Uno è quello dei rapporti tra Guardia di Finanza e agenzie. Questi sono 100.000 dipendenti tra agenzie e Guardia di Finanza e divisi in due organizzazioni che semplicemente si ignorano. Se lei prende la relazione annuale della Guardia di Finanza o i rapporti dell'Agenzia delle Entrate, non parla nessuno, parla dell'altra. Quindi questo è un problema che andrebbe risolto. Fantastico, questo è... No, questo è una cosa che ha una grossa. Sono due entità che vivono, che entrambe le dipendenze, anche se l'agenzia ha una struttura ovviamente nuova, moderna, eccetera, che però è assolutamente necessario coordinare in modo molto più serrato e pregnante. Adesso le agenzie si stanno spostando sempre di più su un territorio che è un territorio teoricamente della Guardia di Finanza, insomma la Guardia di Finanza poi è un'organizzazione che deve recuperare fortemente personale sul territorio, perché è un'organizzazione che arriva addirittura ad avere 7 livelli gerarchici, quindi se vuol fare l'organizzazione militare ben venga, ma insomma non con logiche ottocentesche, insomma sì. È necessario recuperare fortemente. Il secondo problema è quello dell'eccessiva centralizzazione degli obiettivi dal centro, questa è un'iniziativa che parte da Roma. Ora, va io bene, ho detto anche dal ministro, direttamente dal ministro forse, perché però ci sono, prego? Io penso che in qualche modo derivi anche da una scelta di Monti, che è ministro dell'economia e delle finanze in questo momento. No. Sotto questo profilo sì. Siamo d'accordissimo, segnala al paese e ai cittadini quello che diceva il signor Mario, insomma, quando si trova di fronte il barbiere che deve... Però ecco, la cosa importante, in Emilia Romagna, questo è un dato che noi stiamo sviluppando con le nostre attività, nei primi 6 mesi del 2011 sono state fatte 10.963 segnalazioni dai comuni per l'accertamento. Lei sa che tra il 30 e il 50% e in futuro anche il 100% degli introiti verranno ai comuni stessi. Sì. L'Agenzia delle Entrate ne ha lavorate soltanto il 15%. Allora, quali obiettivi ha l'Agenzia delle Entrate in Emilia? Chi li pone? devono entrarci i cittadini, così come prevede la legge, prevede la 150 del 2009, le leggi Brunetta, le leggi Bassanini, la trasparenza degli obiettivi. Cioè lei auspica una, senza che sia una parola negativa, una politicizzazione degli obiettivi del fisco, cioè deve entrare nel dibattito pubblico e si deve sapere che il fisco si occupa di questo, viste le risorse che ha a disposizione, piuttosto che di quest'altro. Cioè, questo no, sta dicendo in qualche modo, Giuseppe? E considerando anche come l'evasione... No, non ha sentito. Vabbè, grazie Giuseppe, ha parlato anche troppo. Chiudiamo con un'altra voce. Walter da Roma, buonasera. Ah, buonasera. Sì. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta un attimo, io telefono a proposito delle dichiarazioni che avete mandato all'inizio della trasmissione del signor Bittarelli, sì, presidente del 3570. Ecco, guardi, io sono un tassista a Roma, quindi sono praticamente interessato alla cosa e conosco di persona anche il signor Bittarelli. Quello che ci tenevo a dire, non so se hanno dato la reazione dell'ascoltatore che ha telefonato, no? No, prego, la dica lei la reazione dei colleghi tassisti, questo vuole dire. Ecco, quello che volevo dire, che volevo far presente... In 20 secondi perché dobbiamo chiudere. Sì, guardi, che il signor Bittarelli la dovrebbe far finita di assoggettare la categoria tutta a quelle che sono le sue mire politiche. Altrimenti quello che sta succedendo è che l'utenza ce l'abbiamo tutta contro e ci assoggetta tutti quanti a un'idea politica che non corrisponde a quella che è della categoria. Grazie mille, ci dobbiamo fermare qua. Un ringraziamento ancora a Laura Marchesi e Viola Bottoni in redazione. Lunedì tornano Cruciani e Parenzo. Per quanto mi riguarda, vi do appuntamento a un nuovo programma di Radio 24 domenica 15 gennaio alle 12 con gli ascoltatori. Si può fare, questo sarà il titolo. Grazie a tutti, buona serata a tutti.